è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Cari amici tassisti, cari amici che siete all'ascolto, che state bloccando la città di Roma e avete in progetto, così leggo, di bloccare anche Malpensa e altre città italiane, calma, calma, innanzitutto non ve la prendete con quei pochi che magari vogliono lavorare, voi li chiamate crumiri, e che invece oggi a Roma avete aggredito, caro Parenzo, perché un tizio è stato preso d'assalto perché era per strada. Beh, queste cose non sono tollerabili, non sono tollerabili. Momenti di ira per una categoria esasperata, massacrata. Massacrata da che? Non interpellata. Io saluto lei, direttorissimo Cruciani, i nostri ascoltatori, e saluto i nostri amici della Confindustria che ogni giorno ci fanno andare in onda, il nostro direttore, dalle 18.30 alle ore 21. Ma i tassisti, tanto per completare lo slingamento, i tassisti non li saluti, no? No, sono i tassisti, li ho salutati, li ho visti oggi incazzati neri, per inciso qualcuno mi ha anche salutato, qualcuno mi ha detto, glielo deve dire lei a Cruciani, di questo glielo dico, non trattateci male, dico non vi trattiamo male, però queste proteste, non bisogna bloccare le città, anche perché ancora non si sa nulla, non si sa niente di cosa vuole fare il governo, quando sapete qualcosa che fate, sparate? Questo è il punto. La protesta sta salendo troppo, sta montando troppo, troppo. Senti questo, uno dei leader dei taxi, non so dove, credo a Roma, senti cosa dice. La stragrande maggioranza dei tassisti sono pronti al dialogo, ma sia ben chiaro, pronti a scendere in piazza e a dimostrare tutto il nostro dissenso nei riguardi di questo governo che ci sta sfondando il cranio. Sfondando il cranio. Ma è legittimo usare toni così, anche linguaggio immaginifico. Ma per adesso non c'è nulla. Possibile che quando però si vuole toccare anche qualcosina, io sono contrario alla cancellazione del valore delle licenze. Oh. Però non è che quando si vuole toccare qualcosina inizia una sarabanda del genere. Non è possibile, lo dico con affetto, li abbraccio, li adoro. Oggi mi hanno fermato a Milano tantissimi tassisti chiedendomi cosa ne pensa, senza aggredirmi, cosa ne pensa, è giusto, non è giusto, siamo preoccupati, abbiamo pagato 120.000 euro per una licenza, eccetera eccetera. Io ho detto guardate, bisogna superare questo sistema. Anche loro erano d'accordo, è una follia che un ragazzo di 28 anni per entrare nel mondo dei taxi debba pagare 120.000. Non è come un negozio, sbagliano quelli che pensano così. Certo, non è, a questo punto, dopo tanti anni di errori con un sistema sbagliato, non è che si può annullare il valore di queste cose. Su questo, questo non c'è capire. Dubbio, però caro Monti, caro governo Monti, se la liberalizzazione dovesse servire solamente a fare qualche aumento di licenza senza una ragionare sul sistema generale, aprire magari il mercato ad altre cooperative eccetera, questo no, cioè non è che tutto si può risolvere in aumentino di licenze, caro questo Monti. No. Bene, ancora qualcosa però, che c'è sui taxi? Carico a pallettoni stasera, Sono abbastanza carico, sì, sono abbastanza carico. Qualche Bravo. Voce da Radio Padania, va, sentiamo qualche voce di Radio Padania sulla vicenda Cosentino. Il tuo amico Cosentino. Non è mio amico Cosentino, non hai capito niente Cosentino. Dalla mia difesa di ieri del voto della Camera, non hai capito nulla. Una cosa gravissima. Buonasera, sentite, ma avete salvato... Lei come si chiama e da dove chiama, prima di tutto, a casa sua, saluta questo... Allora, glielo dico, magari almeno non richiama più, per chi deve chiamare qua, ci si annuncia, ci si presenta, si dice nome e cognome, altrimenti chiamate Radio Popolare o Radio Radicale. Pronto? Pronto, buongiorno. Buonasera. Mi chiamo Andrea e chiamo da Varese. Buonasera. Volevo chiedervi come mai oggi la Lega ha salvato un altro camorrista. Lei è sicuro che quest'uomo sia un camorrista? Sì. Ha letto le carte? Visto. Certo. E quindi da cosa deduce certo, che quest'uomo molte sia un sono camorrista? Anche online, dal fatto che andava a cena con un camorrista. Ho capito, quindi se lei viene a cena, se io vengo a cena con lei, vado a cena con uno stronzo. la pacata risposta, per carità, non siamo noi a doverlo dire, cioè la pacata risposta del conduttore di Radio Padania a un ascoltatore che protestava. Santoro, bella la battuta, ma c'è molto nervosismo lì in Padania. Beh, sì, sì, c'è molto nervosismo, c'è perché la spaccatura è evidente, anche se in realtà era precedente, diciamo la verità, quella tra Maroni e Bossi. Io dico una sola cosa: Maroni ha tentato con un blitz di prendersi la Lega e Bossi l'ha stoppato, su questo non c'è dubbio. C'è anche la battuta di Vendola di oggi, che non è male, l'ho recuperata da qualche parte. Nikita, sì, è tramontato il mito della virilità leghista, sono diventati impotenti, non è male. Allora andiamo a sentire lo stesso Cosentino ieri sera a Porta a Porta. La camorra, ma se lo prenderebbe uno sfigato come me? Si definisce uno sfigato, sentite. Ha visto mai una camorra o un ambiente criminale mettersi a braccetto con uno sfigato che non riesce manco a fare un centro commerciale? Poi non sono un privilegiato. E non mi sento un privilegiato, perché subisco una violenza mediatica e politica, e sotto certi aspetti anche giudiziaria, ormai da 3 anni a questa parte. E va bene, invece andiamo su Santoro. Il voto è una delegittimazione della magistratura. La maggioranza del Parlamento, dicendo no al suo arresto, che cosa ha fatto? Non ha fatto prevalere l'orrore per questa accusa, che andrebbe subito cancellata nei tribunali, ma ha fatto prevalere una delegittimazione della magistratura, perché se i magistrati che hanno chiesto l'arresto di Cosentino non sono sereni, allora... Tuo fa l'americano, americano, americano. Beh, prima dell'ospite che apre la puntata di stasera, caro Parenzo, voglio farti riascoltare così per tirarti su di morale. Ti voglio tirare su il morale. Questa sera sei un po' giù, lo so, ci siamo sentiti, non sei in grande forma. Il signor Danna. Il signor Danna. Questo mi carica, Danna mi carica pallettori. Danna dovrebbe anzi renderlo mutuabile. Cioè? Il ministro della salute dovrebbe metterlo tra i farmaci, uno che è depresso, dice gli do un farmaco contro la depressione, no? Sì. Però anziché il farmaco le diamo per 4 giorni Danna che spara le sue cose e cioè vedrà che si ripete un farmaco mutuabile, rendere l'onorevole Danna mutuabile. Danna di Bobolo e Territorio, Popolo e Territorio, e... Bobolo e Territorio, Bobolo e Territorio, Bobolo e Territorio, ex responsabile, siccome che diceva responsabile palestinese in Italia, Bobolo, il Bobolo. Un problema di occidente corrotto, Bobolo di Palestina, Bobolo. Bobolo, Popolo e Territorio è il gruppo alla Camera che mette dentro un sacco di movimenti che non sto nemmeno a elencare perché sennò vomito. E andiamo a sentirlo ieri versus Parenzo. Chi è l'altro che interloquisce con lei? Il forcaiolo. Signor Parenzo, ha capito una mazza di che cosa abbia fatto il Parlamento. Io ho capito perfettamente che oggi avete fatto una cosa. No, lei non ha capito assolutamente niente. Oggi avete detto... Dalle cose che dice, lei, caro Parenzo, non ha capito niente. Caro Zola. Caro Danna Zola. No, io mi chiamo Danna. No, lei si chiama Zola. Sarò costretto a chiamarla Ryszynski come il grande accusatore delle purghe staliniane. Saviano si è arricchito con la camorra. L'unico che ci ha guadagnato sulla camorra non è Cosentino, è lui che si è arricchito con il libro. Vabbè. Certo che è stato minacciato, parecchi di noi sono stati minacciati, solo che non andiamo agli onori della cronaca, forse perché non siamo graditi ai metro a pensieri della sinistra. Se mi avete chiamato per prendermi per il culo o per insolentirmi usando un linguaggio trattivo, io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Perché il linguaggio trattivo lo conosco anch'io. Però scusi un attimo, Danna. Tuo fa l'American, tuo. Bene, è con noi. È con noi, ti senti meglio. È con noi all'800 24 0024. Pina Picerno, deputato del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Senta, lei lo conosce il signor Danna? Il signor Danna che è casertano, lo conosce? Non ho il piacere, diciamo. Non ha il piacere? Beh, è un suo collega in Parlamento, un deputato. Ma che collega? Non è che vi conoscete tutti, no? So che è un deputato, ma non lo conosco, non l'ho mai incrociato, per fortuna devo dire, aggiungo, ma ci avendo sono altre... sentito quanto è gentile. Ci sono altre perle, onorevole Picerno, ci sono altre perle favolose qui. Di questo intellettuale. Senta, le trapanse del però anche la signora Picerno ogni tanto non è, insomma, ogni tanto le tira giù delle belle bastonate, anche se in un altro modo, diciamo, no? Con il linguaggio. Ma non dico parolacce, però. Ma si possono anche dire, ma non è quello il problema. Comunque, come definirebbe i signori radicali? All'interno del Partito Democratico hanno però votato contro l'arresto di Casalino. Fuori di testa, diciamo così. Quello di ieri è stato un voto assolutamente incomprensibile. Fuori di testa, cioè sono matti. Io non ho condiviso, diciamo, la scelta dei radicali. Su questo non c'è dubbio. Come ho detto, ho trovato questa decisione sbagliata, folle, sì. Anche perché, peraltro, Turco. Io approfitto per ribadire che la Camera non è chiamata a entrare nel merito di fatti giudiziari, noi non siamo magistrati, di quegli aspetti là per fortuna si occupano i magistrati, che svolgono un ruolo delicato e importante. Noi eravamo chiamati ieri a valutare l'esistenza o meno del cosiddetto fumus persecutionis, che vorrei anche dire che nel caso di Cosentino è di tutta evidenza che non c'è, perché, Però secondo i radicali c'è, onorevole Picerno, cioè non è che lei può dire. Guardi, quando anche il riesame conferma tutto l'impianto accusatorio, quando siamo alla seconda richiesta di arresto, appunto, in meno di un anno, quando addirittura la Cassazione che si è espressa sulla legittimità dell'altra misura conferma l'impianto accusatorio, non mi pare, insomma, possiamo parlare di tutto. Certo, no? però scusi, onorevole Picerno, se fosse così, allora è inutile, quel passaggio alla Camera sarebbe inutile. Che vogliamo fare? Se lei dice... non è così, perché la Camera è chiamata, come ho detto, a vedere se c'è o meno in atto una persecuzione, diciamola così. Nel caso di Cosentino, diciamo, la persecuzione è stata attuata semmai ai danni dei cittadini casertani e campani. Insomma, addirittura sono loro i perseguitati, direi, da Cosentino. Direi che questa provincia è stata abbondantemente massacrata, diciamo, da questa classe politica e da questa classe dirigente. Senta, non lo dicevo, ma ecco, appunto, i radicali, però, a questo punto, con questo ennesimo voto differente rispetto al gruppo del Partito Democratico, eccetera, cioè, ormai lei non li considera nemmeno più parte del centrosinistro, o comunque di una coalizione? No, guardi, su questo i radicali hanno una storia importante, hanno anche, diciamo, arricchito il dibattito all'interno del gruppo del Partito Democratico con delle proposte anche molto serie. Io mi limito a valutare il fatto che questa vicenda ha dell'incredibile, e io non l'ho compresa, nel senso che quando Turco entra nel mezzo di una vicenda giudiziaria fa l'avvocato di Cosentino e non è il suo mestiere. Fa l'avvocato di Cosentino, addirittura l'avvocato di Cosentino. Vabbè, nel senso che è entrato nel merito di aspetti, ripeto, giudiziari, andando a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti, insomma, andando a fare l'avvocato di Cosentino. Io ricordo soltanto all'onorevole Turco che non è quello il suo mestiere e che non è chiamato a farlo, tutto qua. Bene, bene, un altro po' di Danna, va, che dici, Parenzo? Un altro... Sì, così ci tiriamo tutti su anziché prendere... Un'altra roba, dai, su, un'altra roba. La citazione di Silone a proposito di Saviano, la citazione di Ignazio Silone. Povero Silone, che si rivolta... Vincenzo Danna, mitico, io lo voglio abbracciare forte, però, lo abbraccio fortissimo io, signor Danna. Mi piace così. Perché poi, nella sostanza, io devo dire, lo ribadisco, sono anche un po' d'accordo. So che la cosa farà ribrezzo all'onorevole Picerno, però io sono anche un po' d'accordo. Vabbè, io me ne frego di uno è brutto, cattivo, parla in modo strano, eccetera. Ma non è brutto, è cattivo, dice. Ma non su Saviano, naturalmente, sto parlando del ragionamento su Cosentino. Vabbè, comunque sentiamo questa cosa di Silone. Ragionamento, ho capito, ma tu sei ragionamento. Vabbè, sentiamo. Parola ragionamento. Dai, ti risolleva un po', il morale. Dai, via. Diceva Ignazio Silone, se Parenzo me lo permette, che la democrazia è quella cosa che ha consentito a molte galline di spiccare il volo. Credo che egli sia una gallina che ha spiccato il volo. C'è uno che pensa di essere un intellettuale e poco più di un giornalista che ha scritto un buon libro. Siamo sempre qui e volevo dire che tempo fa, a proposito di un altro voto radicale, onorevole Picerno, il presidente del Partito Democratico Bindi ebbe a definire radicali degli stronzi, se lo ricorda? Sì. Era appropriata quella definizione? Ma non arriviamo a questo. Io non condivido, io rispetto profondamente la storia dei radicali, però hanno sbagliato, il contributo che hanno dato, diciamo, ripeto, al dibattito interno del gruppo. Su questa cosa io sono completamente distante, la penso completamente all'opposto. Penso che, diciamo, debbano serenamente valutare loro per primi che se sono in disaccordo con quello che pensa il gruppo del Partito Democratico, forse è utile, diciamo, fare un'altra scelta. Ma dovrebbero fare un'altra scelta, ma mi sembra che l'abbiano già fatta un'altra scelta. No, ma ripeto, ma stiamo parlando di un partito, non so se è chiaro il concetto. Certo, il Partito Radicale è un partito diverso dal Partito Democratico, però siete nello stesso gruppo, sono stati eletti con voi, l'avete fatto eleggere voi, mica io. Esatto, sì, li abbiamo fatti eleggere, ma parliamo di due partiti diversi che hanno anche storicamente, posizioni. Senta, invece i leghisti, che mi dica qualcosa sui leghisti. Lei tempo fa, qualcuno se lo ricorda sicuramente perché ci abbiamo scherzato molto sopra, abbiamo chiamato anche qui l'onorevole Polledri. Beh, una scena fantastica fu quella, io la definisco fantastica dal punto di vista televisivo, naturalmente. Dal nostro amico Vianello, ti ricordi? Polledri disse a Pina Picerno, com'era la storia, onorevole Picerno, ricordi lei, perché non me la ricordo più. Eccola qua. Deve far ricordare i film dell'orrore. Lo so, allora il deputato leghista Polledri accusato dalla Picerno. Ho paura dei maniaci del parco. Addirittura Polledri un maniaco del parco. Questa è buona, Massimo Polledri accusato dalla Picerno. Lei immagina Polledri con un impermeabile che a un certo punto di notte apre l'impermeabile ed esce l'Alberto da Giussano? Quello immagina? Sì, un po' sì. Pronto? Io diciamo tendenzialmente rispetto alla battuta. Può esserci una bella sorpresa per te se ci caliamo le braghe, così le disse. Appunto, è degna di un, forse anzi è pure peggio di quella che potrebbe fare un maniaco del parco. Peggio di un maniaco del parco. Ecco, ma poi alla fine sono un po' deboli a Roma questi leghisti, cioè non c'è la bella sorpresa a Roma. Io penso che la Lega per l'ennesima volta abbia dato dimostrazione, diciamo, di quanto è semplice vendersi per un piatto di lenticchie. Io non so cosa la Lega abbia ricevuto in cambio. In cambio di un voto irresponsabile, di un voto gravissimo. Che ha ricevuto? Scusi, che dovrebbe aver ricevuto? Non lo so, lo deve chiedere ai leghisti, però mi pare chiaro che dopo, cioè, sicuramente siamo stati di fronte a un atteggiamento incomprensibile. Lega in giunta autorizzazione vota a favore dell'arresto, poi iniziano a cambiare un po' idea. Ma lei l'ha sentito l'intervento di Paolini ieri in aula? Sì, ma la politica. Ha riso quanto rido io. Hanno citato Mannino, Mastella, la Lega che nella stessa aula qualche anno fa agitava il cappio, citava questa gente per giustificare Tortora non è che sia proprio per carità, citavo soltanto i personaggi, ripostavo la sequenza delle persone che sono state citate per giustificare il voto che si apprestavano a dare, voto che ha salvato. Se salvare Cosentino è come salvare i voti di Casalesi, fatto non so se il voto di ieri ha salvato il clan dei Casalesi, cioè secondo lei è camorrista Cosentino, perché fino adesso non è che io valuto l'onorevole Cosentino, io penso che il giudizio la valutazione giudiziaria l'hanno espressa abbondantemente i magistrati con due richieste di arresto. Io non sono un magistrato, sono una ho capito, però a parte di Caserta, okay, voi dite ha massacrato la cosa eccetera, dica quello che pensa chiaramente, cioè quello che pensa chiaramente che è un camorrista, sia colpevole, cioè lei pensa che sia un camorrista. Io penso che l'impianto accusatorio sia assolutamente diciamo un impianto accusatorio serio, gravissimo, che le accuse che vengono fuori da quelle indagini mi fanno inorridire, da, ripeto, casertana. Sì, accuse, lei ha detto bene, lei ha detto bene, però lei ha detto bene, onorevole Picerno, accuse. Accuse, cioè no, voglio dire, infatti io stavo lei, provando, ho capito, dire, è camorrista o no? È camorrista no, o no? Io, ma io non sono un magistrato, non faccio la poliziotta e non ho nemmeno la sfera di cristallo. Io mi limito a leggere l'impianto d'accusa e mi fa inorridire. Io quando leggo quelle cose mi viene. Ho diciamo, capito, ma ci sono tanti impianti d'accusa che sono stati smontati dopo, eh? Ci sono tanti. Qui si vabbè, guardi, infatti stavo provando a dire, se lei mi fa terminare, che la mia valutazione, quella che sono chiamata a dare, è una valutazione politica, perché guardi, la valutazione giudiziaria aspetta la magistratura, ma una volta è per sempre. Ma meritava di andare in galera? Meritava di andare in galera, Cosentino, adesso? Un cittadino al suo posto a questo punto era in galera, ma non doveva stare in galera. Però non è la stessa cosa, cittadino. No, perché e i parlamentari sono diversi. Guardi, cioè io non accetto, cioè io per quanto mi riguarda il principio che cardine che esiste in questo paese è che la legge è uguale per tutti, sta scritto per ho capito, ma i parlamentari sono diversi, questo c'è dubbio, altrimenti non esisterebbe, il passaggio. Lei continua a dire una cosa inesatta, perché nel momento in cui non c'è fumus persecutionis, come abbiamo detto, pure un parlamentare va in galera. Sì, vabbè, sono diversi nel senso che esiste un passaggio parlamentare che prevede se uno può essere arrestato o no, altrimenti ma non c'è un grado preliminare di giudizio, però attenzione, esiste un passaggio parlamentare che serve a valutare se c'è o meno fumus persecutionis. Certo. Non c'è un grado preliminare di giudizio, questa cosa non c'è ed è bene chiarirla. Sento una cosa, Cosentino, perdoni, mi faccia finire però perché è importante, Cosentino, come qualsiasi normale cittadino, per la richiesta che hanno fatto i magistrati che valutano il cittadino Nicola Cosentino, doveva stare in galera. Io valuto l'onorevole Cosentino come cittadino e come parlamentare e penso che la politica una volta debba cominciare a dare segnali chiari e a fare la propria parte. Bene. Perché fino a questo momento così non è stato. Per esempio, su un altro piano, un piano completamente diverso, naturalmente non stiamo parlando di camorra, eccetera, parliamo invece di un caso molto scottante che riguarda il governo Monti, il caso di tolto quello malinconico di Patroni Griffi, il signor Patroni Griffi. Allora, secondo lei si deve dimettere o no il signor Patroni Griffi per la storia della casa? Paese? Non ci sono illegalità, sembra. Io penso di sì, e questo riguarda tutti, riguarda la politica. Vogliamo ricominciare a parlare di qualità e di responsabilità delle istituzioni? Cioè, cosa ha fatto di male il signor Patroni Griffi? Io dico semplicemente che non possono essere i giudici soltanto a dare patenti di onestà in questo paese, perché quando i cittadini sentono le istituzioni come colluse, corrotte, e allora viene a mancare quel fatto. Prima Danna ma che ha fatto male? Che ha fatto di male? Propriamente di democrazia. Io penso che la politica, è vero che conta l'etica di ciascuno, gliela dico così, visto che abbiamo tempi radiofonici, l'etica di chi rappresenta le istituzioni conta di più. Delle illegalità. Bene, abbiamo il giornale radio, magari poi torniamo ancora con Pina Picerno del Partito Democratico, 800 24 00 24. Il mostro com'era? Il mostro di no, com'era i vecchietti del parco? No, i vecchietti, i poveri vecchietti. Maniaco del parco. I maniaci del parco. Polledri, un maniaco del parco. Beh, signor Polledri, poverino, che ha fatto così? Non ha fatto niente di male il signor Polledri, una battuta. Vabbè. Siamo qui, 19:15, caro Parenzo, 800 24 00 24, con la Zanzara. A che punto sei? Bene, no, sono sempre a lavorare sott'acqua nella redazione della SET. Si saluta anche l'ottimo Caldarola, tutto lo staff. Siamo qui per preparare la grande puntata di domani, Terese Porro in onda. Vabbè, inutile, adesso sei pubblicità, adesso siete strozzate. Su. No, volevo fare una proposta, però parliamo di cose serie, per chi ci ascolta in macchina, per chi è a casa, per chi è con la fidanzata, per chi eccetera, sta cucinando la pasta. Allora, a questo punto, dopo il voto di ieri, sono molto serio, non ti arrabbiare. Il PDL, il nostro amico Cicchitto, il nostro amico Verdini, vadano fino in fondo. Cosentino è un deputato come tutti gli altri? Rispondi, Cruciani. È un deputato come tutti gli altri? Allora? Sì. Allora vada nella commissione parlamentare antimafia. Lo mettano lì. Vabbè. titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Standard & Poor's declassa la Francia, a rischio anche altri paesi europei, Italia compresa, lo spread a 500, ma l'asta giù i tassi BTP. Monti incontra i leader di PDL, PD e Terzo Polo, le liberalizzazioni in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, tagli alle auto blu. I tassisti spengono i motori contro la liberalizzazione, parcheggi vuoti in molte città, Roma presidio sotto Palazzo Chigi, l'autority bisogna precettarli. Dopo il no all'arresto di Cosentino, scontro aperto nella Lega, il bossiano Reguzzoni attacca Maroni e sul web insorge il popolo padano. CGIL e CISL e UIL pronti al confronto sulla riforma del lavoro, ma avvertono il governo, se si tocca l'articolo 18 salta tutto. Rintracciato il SUV che avrebbe investito il vigile urbano di Milano uccidendolo, gli investigatori sulle tracce del proprietario, forse in due sull'auto. A Pechino, folla al maxi store della Apple per comprare il nuovo modello di iPhone, risse, incidenti, vendite sospese, interviene la polizia. Siamo qui, allora, che succede oggi? Che... Ti è piaciuta questa proposta di mandare così? Assolutamente no, che... Ma perché? Non sarebbe mica un paradosso, eh? Ma cosa c'è? È un deputato come gli altri? Sì. La Camera ha detto no all'arresto e quindi deve continuare a fare il legislatore il suo lavoro? Sì. Benissimo, se i deputati che hanno votato no all'arresto ritengono Cosentino non responsabile, perché questo è il risultato, sì, vadano fino in fondo e lo mettano alla commissione antimafia. E poi c'è un'altra cosa, guarda, quei baci e quegli abbracci di ieri. Sì, qual è il problema? Ecco, non siamo al derby, non è Milan-Inter. Ma qual è il problema? Non ha segnato qual Pato. È il problema? Ieri non ha segnato il ma non gol, c'entra Pato. Niente, non c'entra non nulla. Ha segnato Pato, non c'entra ieri. Niente. Hai capito? Quando non si tratta una... di mettere in galera o no una persona, è giusto che nessuno. Le persone più vicine a quella persona, chiunque essa sia, anche un mostro, persone che non lo considerano un mostro, lo abbraccino e lo bacino perché si è salvato dalla galera. Si è salvato dalla galera, dunque quindi, non ci trovo nulla di strano. E quindi ci si abbraccia, ci si bacia. Ma perché? Qual è il problema? Non capito qual è il problema. Non ho capito qual è il problema. Spettacolo, è uno ma quale spettacolo, spettacolo cosa? Quale spettacolo? Di che stai parlando? Uno spettacolo in vere conto. Ma quale baci, spettacolo in vere conto? Ma non dire stupidaggi. Su una questione così delicata. Assolutamente no. I baci e gli abbracci. Fabio da Venezia, buonasera, 800 24 00 24. Se piace così. Buonasera, vi sentivo molto agguerriti ieri sera sul caso di Nico Americano. Allora? E allora io dico la mia, no, su come è andata. Cioè, lui come mai si è salvato dalla galera? Perché la sera prima ha fatto un incontro con Silvio e gli ha detto, guarda, se io vado in galera l'uccello comincia a cantare. L'uccello? E quindi Silvio ha elargito, ha unto dove sa lui e ha compravenduto, insomma, questo voto. Come sì, al solito, tra l'altro. Sì. Dunque, lei che ha la sfera di cristallo, lei che è evidentemente uno 007 certo, o non so che altro, è addivenuto alla conclusione, che Berlusconi si è comprato non so quanti deputati, giusto? Beh sì, non sì, è una cosa cioè, nuova, insomma. No, no, per carità, non è assolutamente una cosa nuova. E vabbè, cosa vuole che le dica io? Non mi dica qualcosa, no, cioè, perché lei ha già, già fatto tutto. Voglio abbracciare Parenzo innanzitutto. Abbracci perché, Parenzo, benissimo. Ma sul serio, cioè non polemicamente. La abbraccio, sì, abbraccio anche lei perché siete spassosissimi e, sì, e vi invidio perché potete dirvele di santa ragione. Bene, grazie, grazie. Arrivederci. Senta, Danna contro Parenzo, number two. Ma perché non lo richiamiamo? Numero Danna? Due, no, perché devi richiamare certo Danna? Punto. Perché mi sento un po' giù, voglio proprio due minuti di Danna così che ci dà una delle sue, perché mi tiro su, in diretta, così. Allora, con tutto il rispetto, onorevole, virgola, usi i paragoni storici. Non lasci perdere l'onorevole. Dottore, usi questi paragoni storici con tutto il rispetto, non a cazzo, punto esclamativo, no, come sta facendo. Lasci perdere, guarda, se c'è un cazzo è lei in questo momento. Siamo al top qui, siamo al top. Sento, ho trovato di nuovo il servizio. Ancora. Grazie. oggi sono imbestialito, le voglio soltanto dire, ma caro, ma non me ne fotte niente che lei sia imbestialito, caro dottor, è uno Danna. Che non ha capito niente, caro, dovrebbe solo sapere Danna. Dovrebbe solo sapere, il paragone non ne fa una questione di pregiudizio o di epidermiche sensazioni. Vabbè. Torniamo ancora agli ascoltatori, però prima una Santanchè versus Emiliano sulla questione Cortina. Santanchè versus Emiliano. Ma io vorrei sapere, scusa, tu che sei il sindaco di Bari, se sui telegiornali di tutta Italia, non solo, dicessero che a Bari sono tutti mafiosi o tutti camorristi. Ma che non credo che questo sia mai stato detto. No, e se qualcuno l'avesse detto era una balla talmente gigantesca da non reggere. Non hai seguito forse i giornali e le televisioni, che in quei giorni dicevano Cortina, capitale dell'evasione, gli evasori. Lei abbia un po' il complesso dell'accerchiamento, cioè pensa ad essere attaccata. Beh, effettivamente siamo stati accerchiati, eh. Piero da Firenze, buonasera. Piero. Buonasera. Vada. Vi volevo dire le ragioni per cui io e il sindaco Renzi siamo contro i fascisti. Lei e il sindaco Renzi, che vuol dire? Certamente, quello ve lo spiego dopo. Cioè, perché il sindaco Renzi? Non mi risulta che il sindaco Renzi è contro i tassisti. Non ho capito l'attualità di no, è il più amato dagli italiani perché è il più... la persona che odia più di tutti i tassisti fiorentini. Lei dice? Cui... Non sono informato sul rapporto tra Renzi e tassisti. Voi andiate sul suo blog personale dove si invita i cittadini, io compreso, a scrivere che penso dei tassisti. E vabbè, questo non significa che li odia, scusi, abbia pazienza. Invita i cittadini ad esprimersi sui tassisti. Infatti, io mi sono espresso, sono tutti figli di cani. E così, comunque, vabbè, noi questo, siamo in cinque in un ufficio, eravamo in cinque, poi il più dischero dei tutti un giorno ha deciso di comprare una licenza taxi e da allora non l'abbiamo più visto, ha cominciato a lavorare la domenica, non è venuto più. Ma a chi? Un collega nostro che ha deciso di cominciare a fare il tassista. Poi ha cominciato a non venire più in ferie. Vabbè, allora? L'ultimo dell'anno l'ho trovato a lavorare. E dopo 10 anni questo bischero viene e mi dice, sai, ho finito di pagare la licenza. Ora spiegatemi voi se è giusto che lui abbia una licenza e io no. Questa è la prima volta. Scusi, ma questo qua che lavoro fa questo signore? Ora fa il tassista e ha finito di pagare la licenza. E allora? E io faccio l'impiegato. Allora? Perché lui ha la licenza e io no? E che ne so io, scusi? Gliel'ho detto, perché questo per 10 anni non ha fatto il lavorare, questo bischero. Ciò nonostante. Io non ho capito nulla. Questo qua che faceva prima? L'impiegato e poi è diventato tassista? Poi si è dimesso e ha fatto il tassista o no? Si è messo a fare il tassista. E allora qual è il problema? Il problema è che ora lui ha la licenza, l'ha pagata e io no. Ma scusi, ma perché? Ma se lei non lo voleva fare il tassista, perché dovrebbe avere la licenza lei? Apposta, è perché la deve avere lui, prima di tutto. Ma perché magari... Ma io non ho capito nulla, ma mi diceva la follia perché è un amico di tanto. Bravo, Parenzio, come dice Scilipoti, Parenzio. Ma non ho capito niente, sarò sbagliato. Ma se non mi fai finire di parlare... Ma tesoro mio, oddio, amico mio... Allora, o c'hai una testa che è una ribollita, sono arrivato a casa, fortunatamente piglio un giornale e leggo che i tassisti sono i più esposti alle malattie contagiose. Ho detto, va bene questo. Malattie poi, contagiose? Sì, certo, vivono in un ambiente stretto. Vabbè, allora? Di tutto. E allora da qui dato lì sono contento. Poi fortunatamente ne rapinano almeno 200 l'anno. E 4 o 5 quest'anno li hanno ammazzati. Ma, favore, ma voi vi immaginate? Voi vi immaginate? Hanno ammazzato 4 o 5, uno è ancora in coma. Fortunatamente può anche darci che tra quelli morti ci sia qualcuno che è ancora da pagare il mutuo e che di conseguenza. Scusi Piero, però arriviamo a una conclusione di questo folle intervento. Arriviamo a una conclusione, la conclusione è il cinismo. Il cinismo. Il cinismo. Cioè? Immaginate voi una categoria che vive in questa maniera, eh? Una categoria, avete mai visto voi cercare? caso un notaio che una domenica lavora per 10 euro e viene ammazzato, e magari gli viene detto, sai, fa parte della casta. Il povero collega, il povero collega di Milano faceva parte della casta. Avete mai visto un notaio che viene ammazziato per 10 euro la domenica? Vabbè Piero, la ringrazio, buona serata. Enzo da Pisa, anzi prima c'è Giuseppe da Reggio Calabria, buonasera. Buonasera, vada. Che te devo dire? Che i radicali so, sono, guarda, intanto saluto anche a Parenzo. Sì, grazie. I radicali, ti devo dire che sono quattro drogati proprio di quelli che stanno là al Parlamento. Siamo partiti bene. Siamo partiti bene. Siamo partiti benissimo. Poi ti devo dire un'altra cosa. La colpa è il diverso. I radicali sono quattro drogati, questo è quattro drogati che predicano bene e razzano male, te lo dico io. Vai tranquillo che è così. Vai tranquillo che è così. Sì, certo. Poi la colpa è di Veltroni, perché Calearo l'ha candidato Veltroni. Poi che c'entra Calearo? Scusi, che ha fatto Calearo? Che c'entra? Ma che ha fatto Calearo? Dimmi chi ha votato il no all'arresto di Cosentino. Anche Calearo. Anche Calearo, sì. L'ha candidato Veltroni col PD, altro partito, PD e PDL, le due facce della stessa medaglia. Quindi vado a dire, noi dobbiamo andare subito alle elezioni. Vabbè. Noi siamo governati. Parenzo, ma a quest'ora che succede secondo te? A quest'ora in genere è l'ora in cui hanno in corsia hanno mangiato già la minestrina e gli fanno fare l'ultima passeggiata prima di riportarli, diciamo, nel Io dovevo nel pure complimentarmi con Parenzo. Sì, però ma cazzo, può anche complimentare lo stesso, però bisogna fare degli interventi che abbiano meno tasso alcolico. No, ma scusa, ma perché te la faccio fatica a capire io proprio. Ma c'è la minestrina o il bicchiere di vino allora? Beh, gli danno prima la minestrina, poi gli fanno la puntura per sedare. Sì. Le parti fanno la punturina per sedare. Prima di farlo gli fanno smaltire la minestrina e fanno due passi. Allora c'è un telefono in tutte le cosiddette di ospedale. C'è scritto 800 24 00 24, chiamare tra le 19:15 e le 19:45, risponde il signor Cruciani, il signor Parenzo, eccetera, eccetera. Ed è un servizio perché noi siamo convenzionati, come credo, no? Come, sì, proprio, con i vari centri con questi centri di igiene mentale. La Zara è convenzionata. Ah, certo. E quindi c'è la telefonata. Ma quando chi te l'ha detta questa cosa? No, abbiamo parlato con il Ministero della Salute. Siamo noi e Danna siamo convenzionati con il Ministero della Salute. Sì. Dunque, signor Giuseppe, lei ha minestrina tutto a posto, ha già fatto, bicchiere di vino l'ha preso, adesso si è avvicinato al telefono. Sì. Io? Sì. Allora, pensi che io sia ubriaco perché dico quello che dico, allora sei fuori strada. E qua gli ubriachi siete voi due, il Parenzo. Perché non può essere che noi viviamo in un governo ladro, dove tutelano i ladri e quelli presunti associati a Camorra. È vergognoso. Qua c'è gente che ha perso la vita. Io mi ricordo di Falcone e di Borsellino. Sì, certo. Aspetta un attimo. No? Parenzo. Partita. Dove si trova? Zona? Sull'ambulanza. No, ma è attrezzata di tutto, in particolare di quelle bellissime camicie bianche che si allacciano davanti. Guarda, questo, Parenzo, questo è il mio lavoro, questo che stai facendo suonare. Io ho il servizio d'ambulanza, quindi mi trovo anche a giocare in casa. Eh beh, certo, dunque conosce tutto di questo servizio. Benissimo. Si trova bene. Quando arrivano i signori. Non puoi fare tu disinformazione, Cruciani. Sì, che no, però scusi, in gamba, quando arrivano quei signori, i suoi colleghi o non so chi, quando arrivano i signori, lei sa come fare, inutile, diciamo, non c'è bisogno di. Devi dire al paese. Non c'è bisogno al paese, sì, non c'è bisogno di aggiungere altro. Borsa. Siamo qui 800 24 00 24. Maria Monza, buonasera. Eccomi qua, buonasera a lei. Senta, io volevo un attimo. Bella voce, Maria. Pronto? Sì. Aspetti, Maria. Dimmi. Marco? Oi. Ciao, sono Cruciani. Dimmi. Come stai? Ti disturbo? Ah, ciao Marco. Parenzo. Marco? Pronto? Marco, mi senti? Sì, ti sento adesso. Come stai? Ti disturbo? Giuseppe Cruciani, ciao. Ma siamo in diversi, dimmi. Sì, no, ti posso fare qualche domanda sulla questione di Cosentino? O hai da fare? Vabbè, in fretta facciamola. In fretta, dai, c'è anche Parenzo. Che ciao Marco, un abbraccio fortissimo. Ciao David, ciao, a presto. Senti, dimmi una cosa, ma molti del Partito Democratico vi considerano ancora una volta dei specie di traditori per quello che è accaduto. Ma il problema è loro, tutto qui, poverini. Perché? Perché il problema è loro, ci considerano come gli pare. Ho l'impressione che le loro considerazioni valgano oggettivamente sempre meno, poi posso sbagliarmi io invece di loro naturalmente. Addirittura qualcuno dice che insomma battaglie radicali tanti anni è diverso dal caso Tortora, Marco, il caso di Cosentino, però scusa. No, scusa, che ti posso scusare, ma dimmi di che. No, ma infatti non c'entra niente il caso. Che dici? Prezzo, che c'entra il caso Tortora con Cosentino? Scusa. Salvare Cosentino. No, per uno come te. C'entra è il fatto che noi sempre abbiamo avuto a che fare da garantisti veri nel difendere i diritti acquisiti esistenti perché vengano rispettati. Ho capito, poi a questo punto hai fatto una domanda, ti rispondo. Aspetta no, prima di Tortora che non c'entra. Se fate delle domande vai. Allora voglio dire, quando abbiamo una richiesta di arresto alla Camera, d'accordo? Sì. Abbiamo una Costituzione che per tutti i cittadini, io sto lottando per tutti quelli non parlamentari di già, come sapete, da questo punto di vista, la prigione cautelare deve essere assolutamente motivata da motivi straordinari. Sì. Noi ci siamo sempre attenuti a questo. Noi, per esempio, quando si è trattato non di autorizzazioni all'arresto, magari, ma comunque per Milanesi, che era un caso che faceva particolarmente schifo, schifo in che senso? Anche gli altri, in genere abbiamo sempre votato anche per Papa, abbiamo invece votato. Trattandosi in questo caso di un dossier molto chiaro, dinanzi al quale c'era una campagna di stampa sull'immagine di Cosentino, che è stata quella che è stata, nel senso che Cosentino, mi pare, in effetti è riuscito ad affermarsi dove da 30 anni la criminalità politica coincide con quella di sinistra, con i Bassolino e tutti quanti gli altri. Ah, ho capito. Quindi era particolarmente esposto. Allora abbiamo guardato con particolare serietà le 1300 pagine che sono state mandate, anche se i tempi parlamentari non vengono mai rispettati e c'è poco tempo. Un attimo, perché allora la Bindi ha detto... Sulla base dell'analisi delle richieste si è ritenuto nel modo più assoluto che non ci fosse nessuna necessità straordinaria che potesse giustificare la carcerazione preventiva. Adesso dico Cosentino, contrariamente a quello che anche Saviano oggi ha detto, non si è trattato affatto di discutere della sua innocenza o no. Oh, bravo. Si è trattato solo di dare corso al suo processo, punto e basta. Infatti, perché... Parenzo, no, ha ragione Pannella, perché non c'entra niente, come dice Saviano, oggi l'innocenza o meno di Cosentino. Il processo continua. Ieri ho detto un'altra cosa, ho detto che Cosentino, per rispetto delle istituzioni alle quali appartiene, che dovrebbe fare? Dovrebbe dimettersi. Ma non c'entra niente col voto di ieri. Ma non c'entra. Marco, diglielo tu. Che non arrivare a questo voto. Ma diglielo tu che non c'entra niente col voto di ieri. Marco sarà d'accordo con me. Scusami, non ho capito chi è il Parenzo. Parenzo? Davide, hai bevuto stasera? Ha bevuto, bravo. Marco, bevuto, quanto... puoi bere ogni tanto. Ogni tanto lascialo bere. Io sono vicino alle battaglie. Ma che c'entra? Ma non hai capito niente? Che c'entra la dimissione di Cosentino? Ma si deve dimettere e affrontare il processo. Oddio, ma le affronta lo stesso il processo? Ma tu sei sereno? Davide, guarda che ti faccio fare. Scusa. L'analisi che si fa nelle macchine per vedere la percentuale alcolica stasera. Marco, no, quindi, ma stai zitto, taci. Ho detto, credo che siamo d'accordo per una cosa. Quello che occorre che se quello è un delinquente o se è un innocente, non si deve aspettare 6 anni per saperlo, rischiando nel frattempo la prescrizione. Processo subito, ma siccome in Italia il processo nelle sue tre fasi durerebbe almeno 8 anni, il primo problema è il signor Presidente della Repubblica di questo deve occuparsi, sì, sì, certo. Ci vede incriminati dalla giurisdizione. Sì. Però Marco, perché il Partito Democratico? Perché dalla giurisdizione europea, perché con l'articolo 11 della nostra Costituzione, ragionevole durata di un processo è condizione di rispetto dei diritti umani. Ti posso dire una cosa? Perché allora la Bindi dice che ancora una volta i radicali sono stati scorretti? Ma che cazzo, scusami, che cacchio se ne frega quello che la ottima bambina ci dice, e dice, ma di che state, vogliamo parlare di cose serie? No, ma abbiamo parlato di cose serie, ma ci sono anche polemiche. Ma che cose serie, quando la Bindi piglia e parla è una cosa seria, io non credo che nessuno, anche nel PD, lo ritenga. Dici? È incazzata la Bindi come altri per il vostro voto, perché siete stati eletti col PD, solo per questo è arrabbiato. No, noi siamo stati eletti. Cioè, è incazzata la Bindi, è da capire. Per un ricatto che abbiamo dovuto e voluto subire. Loro hanno, essendo noi rosa nel pugno, avendo noi quindi conquistato noi il governo Prodi e battuto quello uscente Berlusconi, allora a questo punto Veltroni, nella grande fretta che aveva di realizzare, vabbè, però questa è storia vecchia, di realizzare la politica Veltrusconi, ha mandato in crisi il governo Prodi, tutto quanto. Sì. E non siamo riusciti ad ottenere quella, oltre l'indulto, anche l'apparentamento, diciamo, sulla quale erano d'accordo Cossiga, tutti e anche Berlusconi. Bene. Senti Marco, ma tu, ti faccio fare un po' l'analista. Questa posizione della Lega, questa guerra Maroni-Bossi, qual è la tua idea? Che sta succedendo? Ma guarda, io della politica, sai che noi siamo un partito transnazionale, che abbiamo un segretario... un segretario del Partito Transnazionale Africano del Mali, ma della roba francamente della Tanzania non c'ho non me ne occupo. Della Tanzania non mi occupo. Della Tanzania non mi occupo. Chi comanda lì, Bossi o Maroni? Nella Tanzania? Nella Tanzania, sì. No, nella Tanzania comandano semplicemente coloro che evidentemente danno delle bustarelle sostanziose alla Lega della Padania, perché non esiste la Padania, ma esiste la Padania. E chi le dà? Come esiste la Padania? Che non esiste la Padania? Questa è una nuova teoria, ma esiste la Padania, Cioè, voglio dire, da quando il termine è sorto, suonava Padania alcuni secoli fa, e questo anche questo ma i leghisti manco lo sanno questo qua, No, ma guarda, io non ho mai creduto che i leghisti fossero interessanti perché fossero dotti. Erano interessanti perché all'inizio avevano gli stessi riflessi di noi radicali. Rivoluzionari, tu che hai sempre soldi preso con Milosevic, soldi a Mosca con un estremista di fascio comunista, poi adesso la Tanzania, poi i finanziamenti pubblici, poi come sono finiti? Come in questo finiti? Momento la base della Lega si rende conto che dopo 15-20 anni di ubriacatura per andare con Vienna, si accorgono che l'ottimo Umberto invece li porta in Tanzania. In Tanzania. Questa è meravigliosa. Vorrei concludere però con Pannella con un'altra cosa. Ma volevo chiedere a Marco. Che vuoi chiedere? Sempre sei ubriaco stasera? Hai bevuto? Ma no, sono ubriaco. Abbiamo certificato con Pannella che hai bevuto stasera. Non basta. Non ho fatto neanche una canna. Allora, volevo dire a Marco che, siccome tutti i radioascoltatori devono sapere che Pannella non ha mai girato, non ha la scorta, non ha l'auto. Ma che c'entra? Lo devono sapere i radioascoltatori. Allora, Pannella gira a piedi. Ma che ne so, ha bevuto. Ha bevuto. No, ho detto che Pannella non ha mai avuto né scorta né auto blu. L'unico politico italiano che non ha mai avuto né scorta né auto blu. L'unico leader di partito che non ha mai avuto. Allora? Siccome gira sempre col taxi, Marco, ed è molto conosciuto. Ah, sì, sui tassisti, bravo. Ecco, voglio chiedere se, voglio chiedere a Pannella cosa pensa della rivolta selvaggia dei tassisti. Marco Pannella, cosa pensa di questo? Eccola. Ma guarda, vedo una categoria che fa uno dei più bei mestieri del mondo, dappertutto, con i quali vivo e costano caro quasi quanto il tabacco, con i quali quindi ho la vita in comune da 4 generazioni, da 50 anni praticamente. Sì. ci ho detto, loro sono abituati sempre a piangere e protestare contro i pericoli, invece di avere degli obiettivi di lotta, hanno 27 sindacati, quindi hanno 27 guai invece di un'opportunità no, davanti. Quindi è vero che credo che sia necessario, nel guardare alla liberalizzazione, studiare concretamente, cosa che non è stato fatto nei governi precedenti e non si può chiedere questo in 30 giorni di farlo, sì. Studiare qual è la reale situazione economica, diciamo, nelle varie città principali, quelle che possono essere come test, per comprendere se ad una giusta azione di liberalizzazione compiuta in un determinato momento non occorra anche accompagnarla, sì, perché abbia successo, di interventi straordinari, perché esistono, come è noto, sì, città nelle quali in effetti la richiesta di tassi è maggiore di quanta, cioè, sia l'offerta. Insomma, stai parlando delle compensazioni, te dici, no? Le compensazioni in qualche modo, se si allarga. Sì, dipende dalla città. Sì, no, no, ma voglio dire, credo che il problema, come ma sempre... Ma secondo te Monti sa cosa fare o non sanno che cosa fare? Perché secondo me non sanno che cosa fare, manco sui tassisti. No, guarda, loro sanno poco da fare, relativamente, in assoluto poco. Poco, poco. Ma rispetto a quello che prima governo e opposizione uniti... Sì. Sapevamo, sono veramente tutti quanti da premi Nobel del sapere. Ah, rispetto a quelli di prima, sanno, premi Nobel. Non sanno quasi nulla, ma sanno almeno 20 volte quanto Veltrusconi. Senti, no, ma quando parlavi prima delle mazzette, là, delle bustarelle che avrebbe preso la Lega per votare contro l'arresto di Cosentino, eccetera, a chi ti riferivi? Scusa, chi, no, chi... no, no, io ho parlato di quello in relazione al fatto che si portano soldi, si esportano soldi rubati ai cittadini italiani. Ah, quello sul finanziamento è quello, uno scandalo. E si mandano lì al 4%. Bravo. Invece che altrove, dove possono, se comprano della roba di Stato da noi era il 7%. No, ma mi sembrava che tu avessi detto qualcosa con riferimento al voto di alcuni, insomma, della no, Lega. No, no, no, no, perché Bossi ha deciso sta roba? Perché Bossi a un certo punto è andato contro Maroni? Perché? No, ma quelli cazzi, cavoli loro. No, cazzi loro, sì, cazzi francamente, loro. Francamente, il problema non mi interessa sapere quanto sia vero che l'uno ha parlato o non ha parlato con Veltrusconi. L'unica cosa. Ma Veltrusconi, Berlusconi. Veltrusconi. Ma Veltroni non c'entra niente. Il PD ha votato contro, che c'entra? Vabbè, ecco, no, io dico semplicemente che la politica italiana da 20-30 anni è non bipolare, ma sostanzialmente monopartitica. Litigano, ma soprattutto Veltroni e anche Berlusconi, sì, hanno avuto politiche comuni nella sostanza. Ma sei nello stesso partito di Veltroni? Ci ho detto, sì, sì, tornare all'oggi, io parlavo del quattrini che sicuramente sono alla quello parte. È uno scandalo, quello è uno scandalo, quello è uno scandalo. Lo no, ma dico, lo scandalo è utilizzare il finanziamento, lo scandalo è il finanziamento. Aspetta, fammi dire una cosa. Fammi dire una cosa. Allora, le parlavo di bustarelle, per dire quattrini, sì, tangenti, eccetera. Sì. In relazione alla scelta di derubare i cittadini italiani, come fanno con quel finanziamento, col finanziamento, per poi portare i soldi poi in Tanzania o Tanzania, ecco. Vabbè, ti abbraccio forte. Va bene, abbraccio alla Bindi, dai, chiedi scusa alla Bindi. Ma che chiedi scusa alla Bindi? Di che deve chiedere scusa? Ancora una volta è andata, ha detto una cosa sui radicali, perché dovrebbe chiedere scusa? È arrabbiata, perché... è arrabbiata. Non è arrabbiata, poverina, ha detto questa volta che siamo un nodino, sì, che la Lega è un nodo e noi siamo un nodino. È così dolce, è divenuta carina quasi. Vedere me, vedere me, anche se un po', diciamo, a 90 kg o un po' meno invece dei 120, come un nodino, è grazioso. Beh, meglio nodini che stronzi, no? Meglio nodini, meglio nodini che stronzi stavolta, o no? Va bene, bimbi, buon divertimento. Era meglio stronzi, era meglio stronzi. Grazie di avermi chiamato. Ma no, stronzi, vi dico, bimbi, siete dei fratellini minori, quindi che volete? Ciao, ciao, grazie. Un abbraccio fortissimo. Ugo da Bari, buonasera, Ugo. Io gli voglio un bene a Marco, guarda. Ugo, stai zitto, che ti ha dato dell'ubriaco. Ugo da Bari. Ma no, buonasera. Però gli voglio bene perché è una persona vera, sincera. Bravo, Marco. Signor Ugo, dica. Sì, pronto. Proprio bene. Volevo soltanto applaudire all'onorevole Danna. Perché è un dio mediatico. Questo mi fa godere, questo ascoltatore mi fa godere, come dice il nostro amico Lenzi, questo mi fa godere, questo mi fa godere. Intervenire dopo Pannella, dicevo, è difficile perché è veramente un grande oratore. Comunque l'onorevole Danna è veramente, si dovrebbe prostrare Parenzio davanti al dio, perché uno che lo manda a quel paese a quella maniera, che gli dice membro pieno d'acqua. Io veramente sono rimasto allibito, non avrei mai immaginato che questa posizione arrivasse a vertici altissimi. Se lei si eccita così, benissimo. Aspetti un attimo, è tornato lui, senti. Ma se non entriamo nel merito delle cose, diciamo delle stronzate, facciamo i Kelfi e i Ghibellini. Quelli che hanno votato per Cosentino che facciamo sono i Rimasuglia o sono degli esseri moralmente riprovevoli. Quelli che non conoscono né i fatti né le carte e parlano ad minchiam, come fa, credo, il signor Parenzo, la mettiamo in cazzare. Ugo è tornato Danna, ogni tanto spunta. Sì, certamente, è fantastico. Ad minchiam è eccezionale. Infatti, perché mischia latino e siciliano. Ma no, infatti me l'ha copiata perché l'ho detto io 2 minuti prima, ad minchiam. Sì, Parenzo, anche un copione. Lei deve soltanto osannare. Lei deve soltanto farsi curare urgentemente. Parenzo, come diceva quel nostro Scilipoti. Lei non sa quello che dice. Lei non come sa quanto sta male. Tessera di politico. Lei non si rende nemmeno conto di quanto sta male. Ma perché? Che ti ha detto, Ugo? Perché mi piace uno come Danna, benissimo, prego. Ma bene. Lei sta male, Danna sta benissimo, e lei che prima o poi finirà male. Ma guardi, perché? Perché augura a Parenzo di finire male? Perché non si rende conto della realtà. Non mi rendo conto della realtà. Se a lei piace avere persone come Danna in Parlamento, persone come... Io se lo presentano nel mio collegio, lo voto. Se invece presentano lei, non la voto. Ma io non mi presento da nessuna parte, ma siccome se lei si rispecchia, si riconosce in quella roba là, ma se tenga quella roba là, che gli posso fare io? Se le piace così... Se gli piace così... Ma certamente, grazie Ugo, così. grazie Maria, Ugo. Eravamo con Maria, ce la siamo persa. Okay. Maria, Maria. No, sono qui, tenete vada. Io tengo duro, non so voi. Thank you. Vabbè, adesso non facciamo le solite cose. Sono battute. Senta un po', avete già detto tutto voi, io vi ho ascoltato e pensavo di essere a teatro, mi veniva da ridere a volte, altre perché? Volte... Che è successo? No, non lo so, cioè... Maria, che è successo? È peccato non pagarvi il biglietto. Vabbè, se ci vuole pagare il biglietto, ci può anche pagare il biglietto. Vediamo anche a casa, Vabbè, poi vediamo anche a casa. Vengo a trovare io. Senta, adesso non è che potete rimorchiare in diretta tu e Parenzo, tu e la signora Maria da Monza, abbi pazienza. C'è anche un minimo di decenza che deve essere rispettata. A me la chiedete la decenza, ma vi siete ascoltati? Beh, su che cosa, scusi? Niente, volevo solo condividere con voi un pensiero, una bella frase sentita a proposito della decisione politica di quello che è successo. A me sembra una frase orribile da sentire e per giunto falsa. Quale, scusi? La decisione politica, eccetera, di salvare Cosentino. Quello mi sembra scontato, però. Molto più adatta dire convenienza. Convenienza politica. Vabbè, intanto c'è la pubblicità. Questa è la Zanzara, caro Parenzo. Meno male. Dove ti trovi? Meno male, sono alla 7. Sempre lì. No, pensavo ti fossi mosso. Mi sto per spostare in zona Parioli. Sì. Perché so un... Che sono a una cena di lavoro, di cose. Beh, cena di lavoro, adesso non esageriamo. Devo definire alcune cose. Ma quindi sono al lavoro. Comunque dimmi pure, sono a tua disposizione. No, non devo dirti niente, volevo sapere dove sei, dove eri, se ti hai spostato. Se tra un po' mi fai chiamare sul cellulare. Sì, vabbè, intanto chiudiamo con la signora Maria da Monza. Signora Maria, prego. Eccomi. Prese in tribunale. Sì. Quello che hanno fatto i giudici, a che cosa è servito? Se le decisioni vanno prese in tribunale, no, alla Camera, dice lei. No, quando l'ospite che avevate prima come collegamento telefonico sì. diceva che in realtà loro si sono espressi, ma che i processi vanno fatti in tribunale, quindi non si può condannare una persona prima ancora di averla processata, perché il processo deve essere fatto. Quindi, e allora mi domando, ma se tutto questo che hanno fatto i giudici non in una in un momento solo, ma in più momenti, sì. sono arrivati a una conclusione e vale a dire che ho capito, ma ci sono alcuni che pensano legittimamente o no, oppure che non gli va l'idea che Cosentino vada in galera, perché pensano che i giudici perseguitano Cosentino. Cosa vogliamo fare? O togliamo l'istituto della come dire del passaggio parlamentare, delle garanzie per i parlamentari sull'arresto, oppure ci arrendiamo al fatto che non c'è solo una quelli che vanno a guardare tutte le carte parola per parola e poi a un certo punto arrivano alla sì, qui c'è fumus persecutionis, ma si vota in base a mille elementi, il fatto che Cosentino amico mio, il fatto al clima politico, è normale che sia così, no? Sì, sì, la sento. La sento. Sa cosa mi viene in mente a me figurandomi questa cosa? È come una persona che ha una scrivania sempre piena di documenti, sempre piena di carte, scartabella in continuazione. Ma chi? Il senso di tutto quello che viene fuori, per chi guarda e cerca di capire se siamo nelle mani giuste, se le persone che analizzano le cose le analizzano perché vogliono capire o perché vogliono tirare in là o perché vogliono imbrogliare, alla fine, siccome pensare male, come diceva qualcuno, fai sempre bene, mi viene da considerare che in tutta questa storia ci sono queste gran carte che sono sempre le stesse, che si buttano per aria. Ma non ho capito niente. Non ho capito niente. Grazie signora Maria. Enzo da Pisa, buonasera. Velocemente, Enzo da Pisa, dica. Cioè velocemente, in realtà no, velocemente, comunque. Enzo? Stefano da Trento. Sì, buongiorno Cruciani. Vada. Volevo ringraziare l'invitato Pannella, perché prima che le ha risposto, che gli ha dato ragione, ma sono alcuni giorni che lei cerca di far capire ai suoi interlocutori che c'è differenza fra il votare per la carcerazione preventiva e l'assolvere o condannare, sono due cose diverse. Lei sta cercando di far capire ai suoi interlocutori che i deputati sono diversi dagli altri italiani, forse è anche giusto, perché hanno una garanzia in più di libertà, di protezione rispetto a prevaricazioni. Ma perché non ce la fai più? No, io davvero non ce la faccio. Meno male che è venerdì, ma perché non ce la, perché non ti entra in testa questo concetto molto semplice? La logica ha i suoi diritti. Ma quale sarebbe la logica in questo caso? No, spiegami qual è la logica, perché non l'ho capito qual è la logica, spiegami. Allora, fermo restando che con queste leggi è evidente che ci voleva il voto del Parlamento, cioè nessuno dice una cosa diversa da quella che è successa, ma rispetto delle istituzioni vorrebbe che l'idea stessa di avere una persona con quelle accuse là dovrebbe far accapponare la pelle a Cicchito, a Verdini, ma che c'entra? A questo tuo amico Danna, cioè tu non so che se amico? Ci ma chi lo conosci? Non l'ho mai frequentato in vita mia, Danna. Io sto male, perché non so se la gente, ma tu ragioni per slogan moralistici, ma no, che non c'entrano non nulla col non merito, so stai parlando per slogan cose. Moralistici che non c'entrano allora, nulla oltre. La gravità delle accuse di Cosentino, ma chi lo sostiene? Giusto... Voi che avete esultato perché il Parlamento ha negato la carcerazione preventiva, io sì, quando uno accusato, sì, esatto, di bravo, essere hai il detto. Riferimento dei casalesi, bravo accusato, hai detto bene, hai detto bene, certo. Il Parlamento ha meno male, in tre giorni finalmente sei riuscito a imparare, ecco, allora in tre giorni sei riuscito oltre. A imparare che il Parlamento ha negato gli arresti bene. Ma il processo continua a una persona accusata di avere certo. rapporti andate con oltre. I casalesi. Siccome è un deputato plenipotenziario, non come dice Saviano parola. Oggi si è giudicato sull'innocenza o meno di Cosentino. Hanno giudicato baggianata, un provvedimento di magistrati. Stronzata. Hanno giudicato, mentre ci sono 55 presunti casalesi in carcere, perché ci sono 55 presunti. Senti, stai parlando della stessa cosa. Diamo... C'è Cosentino che è fuori, presunto anche lui. Ed è legislatore. Hai bevuto? Com'è che ha detto Pannella? Hai bevuto? Rimandiamo questa cosa oltre. Di Pannella. Davide, hai bevuto? Tagliatemela subito. Stefano da Trento. No, ma che vai oltre? Non andare oltre. Vado oltre, chiedo a Cosentino, ti prego. Dimettiti. Vabbè, subito. Ho capito. Ti prego. Stefano, dica qualcosa anche lei, Stefano. Volevo solo aggiungere la sensazione che molti dei suoi interlocutori ragionano più col fegato che non con la testa. Ma non è abbiamo già condannato Cosentino, lo vogliono in galera e lo vogliono in galera subito prima della fine del processo. e trovo che sia inutile, insomma, verrà processato e se colpevole andrà in galera. Non vedo questo accanimento a decidere ora loro, che non sono magistrati, che lui è già un camorrista e quindi deve andare dentro. Guardi che a volerlo dentro sono dei magistrati che per la seconda volta hanno motivato, per la seconda volta, con nuove motivazioni, perché dovrebbe stare dentro e non a fare il legislatore. Bene. Se però vi piace questo, non do giudizi, io do il mio. Però se vi piace questo, c'è cioè l'idea, ma in America, ma cosa sarebbe accaduto negli Stati Uniti? Basta, se un deputato del Congresso fosse accusato di collaborare con le organizzazioni malavitose. Non ne posso più di sentire questa cosa. Cosa sarebbe successo? Va bene. Andrea D'Alecco, grazie Stefano. E poi dice Andrea D'Alecco, traffico, perché fai così? Giuseppe? Andrea D'Alecce, perché stai dicendo le stesse cose da tre giorni? Adesso vabbè, Andrea D'Alecco, poi fai Luca da Bubù. No, Andrea D'Alecce, ma che tagliare? Quale tagliare? Sono tre giorni che dice le stesse cose. Qui. Invito la gente a scendere in piazza, anche Santoro, qui c'è la censura nei miei confronti. Andrea D'Alecce, buonasera. Buonasera. Vada. Io devo andare via. Io l'ascolto da tanto tempo. Ma questa sera mi sembra che lei abbia raggiunto con la questione Fiorentino l'apoteosi della coglionaggine. Bellissimo, questo mi fa godere questa telefonata, mi fa godere. Certo, vada. Parte che lei è lo stesso che telefona ogni volta con 10 telefoni diversi, già l'ho riconosciuta. Perché non cambia anche la voce? Andrea, cambia anche. No, ma cambi la voce almeno. Certo. Oltre a cambiare telefono, dovrebbe cambiare anche la voce. Cruciani, a parte il ritorno dell'eco che ho nel telefono, che è un po' fastidioso, lei mi deve spiegare perché. Si sa che il telefono sta usando. Non fa la stessa battaglia per battaglia? Difendere gli altri 55. Ma io non sto facendo nessuna battaglia, dentro, questa è la differenza. Che sono dentro nella stessa inchiesta, Cruciani, per cortesia. Se non c'è un motivo di carcerazione preventiva per Cosentino, lei mi deve spiegare perché gli altri 56 invece devono stare dentro. Perché Cosentino è un deputato. Perché Cosentino, che a lei piaccia o meno, Cosentino è un deputato. E finché è deputato, gode di uno status particolare. Che a lei piaccia o no. Professor Cruciani. Ma non sono professore. Ascolti, no. Mi deve spiegare che cosa c'è nell'attività di cui viene accusato Cosentino. Non c'entra nulla. Che riguarda la sua attività di parlamentare. Non c'entra assolutamente niente, Andrea. Lei sa benissimo che non c'entra nulla questa cosa qui. Cruciani, le ripeto. Senta, Andrea, o lei vuole eliminare... Ha raggiunto la apoteosi della coglionaggine. Va bene, abbiamo capito. Mi dispiace, ma si è giocato gli ultimi bricioli di credibilità. Ma io non avevo credibilità prima e non ce l'ho adesso. Grazie. Marco da Como, buonasera. Buonasera Cruciani, mi ascoltala un po'. Vada. Mi spiace, ma non le dico le parolacce di quell'altro interlocutore, ma stasera lei sta trampicando proprio sugli specchi. Sì, ma quale specchi? Non c'è nessuno specchio qua, ce l'ho qua davanti, è distante lo specchio. Che continua a dire uno che i deputati sono diversi da altre persone. Ma certo che sono diversi, come no? Sono diversi. Ma come? Lo dice la legge, non ha capito? Io non ho detto devono essere, ho detto lo sono, ma forse non ha capito. Allora, Marco, lei non ha capito. Ascolti meglio, io ho detto lo sono, nei fatti sono diversi, hanno uno status diverso dagli altri. Ora, se la magistratura la vuole arrestare perché pensa che lei abbia rapporti con i casalesi, signor Marco da Como, va a casa sua, la prende e la porta in gattabuia, giusto? Sì. Se invece un parlamentare viene accusato di questo, i finanzieri, i carabinieri, i poliziotti non possono andare a casa del signor Cosentino, prenderlo e metterlo in galera. Questo e questo perché? Per quale motivo? Perché il parlamentare gode di uno status diverso. È quello che sto dicendo da due giorni, tre giorni. Dunque, quando dico che il parlamentare è diverso dal libero cittadino, dal normale cittadino, dico esattamente questo, non dico che deve per forza essere diverso. Dico che nei fatti è così. Se lei vuole eliminare questa cosa, si batta per eliminare il passaggio parlamentare prima dell'arresto. Ok, va bene. Allora, facciamo che ragione lei. Non è che ho ragione io, questo qua è quello che è la realtà. Dopodiché tutto il resto sono tutte discussioni. A questo punto il parlamentare, visto che è così diverso, dovrebbe essere anche un pochino più onesto e a questo punto prende di mettersi per i fatti suoi. Non hanno votato per il suo non arresto, va bene, onestà per onestà, visto che è un parlamentare, è un personaggio pubblico e dovrebbe dare l'esempio, visto che ha messo su da gente come me che vota, probabilmente non ho votato lui, però fa niente, no? E a questo punto dovrebbe essere onestamente una persona corretta e dire, boh, ma sono stato accusato, ho avuto delle accuse, allora? Sono ancora libero, prendo, me ne vado. Ma scusi, ma abbia pazienza, ma se il signor Cosentino pensa di essere innocente, ma per quale motivo si dovrebbe dimettere da parlamentare? Pensa di essere perseguitato dai magistrati, pensa di non essere... Ma cosa? Ma io non capisco questo scambio. No, ma è una cosa pazzesca questa cosa qua. Cioè, lui pensa di essere innocente, perseguitato, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, dopodiché deve dimettersi perché lo dice, perché così, perché i magistrati lo accusano, allora si deve dimettere per forza. Ma è un'accusa di fronte a, se fosse un uomo normale. Ma è un'accusa, accusato, non è una condanna, è un'accusa. No, è un'accusa. Allora, siccome il parlamentare è questo privilegiato, come dicevi, come è vero, allora? Non sono informato, allora a questo punto il privilegio prevede anche degli onori. Scusi, poi lei non è abbastanza chiaro. Se uno poi non è più parlamentare, quei privilegi non ci sono più. Certo, infatti non è più. È logico che il parlamentare. Pubblicità. Grazie per la pubblicità, arrivederci. Siamo qui 20 e 13. Che c'è? Che è successo? Tutto risolto, devo ringraziare il grande Vittarelli, leader dei tassisti, perché era scoppiato un dramma. Dunque io ho una cena alle 21 ai Parioli, so che magari alla radio della Confindustria questo non interessa. No, nemmeno gli ascoltatori. Una cena di lavoro importantissima. Dunque? Però non si trova un taxi, paga loro, cioè ci sono del MIVA. Vittarelli, leader dei tassisti, prontamente contattato. Da chi? Contattato dal signor Parenzo. Si è fatto raccomandare da Vittarelli? No, raccomanda, adesso vedi subito raccomando, subito usare parole improprie, anzi ripetilo così ti denunzio, ripetilo. Ti sei fatto raccomandare da Vittarelli per trovare un taxi? È un'emergenza assoluta, hai capito? Perché tu sei chiuso nelle stanze lì, nella Torre Seburnea. E allora? Con le macchine blu, la scorta. Veramente era i burla, insomma, comunque. Perché, sì è vero, però Cruciani gira con la scorta, con la macchina blu. Perché Cruciani ha paura ad affrontare il popolo, io invece sono qui tra la gente. Buonasera. Ah dai, quindi... hai bevuto stasera? Vabbè, puoi bere ogni tanto, dai. Vabbè, Pannella ci ha detto qual è la situazione, ci ha spiegato qual è la situazione. Abbraccio forte, grazie. È con noi Luciano Sardelli, buonasera. Allora. Caro Sardelli, ragazzi, siete sempre in forma abbagliante, rompete le scatole da tutti, bravi. Lei no, però, perché non sentiamo assolutamente nulla. Dunque, traffico, e torniamo tra un attimo dove aver ristabilito il collegamento con Sardelli, che Sardelli si trova. Sardelli al giorno toglie Danna di torno. No, ma che c'entra Danna? Poi sentiamo pure se conosce il signor Danna, perché lì si conoscono tutti, lì al sud. Traffico. Formula Pack TNT Post, un anno gratis, il secondo a 6 euro. Clicca tntpost.it. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, in diminuzione la circolazione sulle autostrade, permane un po' di traffico alle porte di Napoli in tangenziale e a Roma lungo l'autostrada A24, mentre sul grande raccordo anulare si avvertono le ripercussioni di un incidente tra la Roma Fiumicino e via della Pisana in carreggiata interna. In città a Roma invece è chiusa al traffico via del Corso tra piazza Venezia e Largo Chigi in entrambe le direzioni per una manifestazione spontanea. Per il momento è tutto, noi torniamo tra mezz'ora. La Zanzara. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? È quella luce che si accende in ogni cuore. In te mi perdo, in te mi incontro. Canti con noi, Sardelli! Ballate la falsa, ora fate ballare. La facciamo ballare, Luciano Sardelli. Oggi non ci capisco più niente io, Parenzo. Sardelli oggi è diventato liberale. Sardelli! Ma siamo sempre liberali. Ma quale sempre liberali? Sempre in definizione. Ma lei è stato sempre liberale. Lei mi vuole dire adesso che è sempre stato liberale? Ma non ci credo, su. Lista, sono un uomo libero. No, ma su questo non c'è dubbio. Senta, mi ripeta un po', però, come dire. Ma cosa fa Sardelli adesso? Cioè, dov'è posizionato Sardelli? È deputato del gruppo misto, giusto, Sardelli? Sì, deputato del gruppo misto. Abbiamo recuperato alcuni amici ex PDL. L'abbiamo portato in questa posizione gruppo misto, sono arrivati. Cioè, chi c'è con voi in questo gruppo liberale? Mi elenchi i nomi, quanti siete? C'è Antonione, c'è Roberto Antonione, sì, lo conosciamo bene. Fabio Gava, famoso Gava, sì. Gianni Pittelli e c'è Giustina Destro. Giustina Destro, capito? Sta con la tua amica Giustina Destro adesso. Sì, Sardegna. Lei è l'unico del sud, però mi sembra, perché Antonione del Friuli, Gava e Padovano, cioè Padovano Veneto. Sì. Pitelli di dov'è? Pitelli è calabrese. Ah no, ecco, c'è anche Pitelli. Ma abbiamo, scusami direttorissimo, non per contestare mai le tue scelte che sono azzeccatissime, lo dimostra. Sì, e allora che vuoi, eccetera. Perché abbiamo chiamato Sardelli? No, signor Sardelli, signor Sardelli, nonostante il fatto, signor Sardelli, perché che va benissimo, per carità. No, però... ma io chiamerei Sardelli sempre, ogni giorno, innanzitutto. Certo. Questo è perché anch'io, figuriamoci, spiritoso, sa cantare, ha capacità di analisi politica. Per cui, insomma, ci è un po' il pane bianco della zanzara, Sardelli. No, vabbè, adesso non esageriamo, il pane bianco della zanzara. I galli della loggia. Però comunque abbiamo avuto posizioni diverse ieri sul voto. Sì, chi? Ah, voi pure, vi siete pure divisi, liberali. Vabbè, da dire. Ma come, scusi, siete cinque. La difformità di pensiero è una ricchezza. Ma scusi un attimo, liberali per l'Italia, siete cinque. Vi siete divisi pure sul voto su Cosentino. E come no? Ecco. Ah, cosa pazzesca. Gli uomini liberi si dividono. Ma lei è specialista nelle divisioni, allora. Lei è uno scissionista. Bisogna dividersi per ricomporre sempre. Ah, non c'è dubbio. Dunque lei, però vogliamo ricordare. Siamo una pattuglia di guastatori Però i guastatori agiscono compatti, voi invece agite così, insomma, come schegge impazzite. Va bene. Scusi un attimo, comunque... Sardelli, però vogliamo ricordare, prima di parlare della vicenda di Cosentino, sì. E poi finalmente venerdì abbiamo chiuso Cosentino, vogliamo ricordare i suoi passaggi parlamentari, perché è una cosa fondamentale. Allora, ci vogliono quattro trasmissioni. No, è vero che ci vorrebbero due trasmissioni, però... Allora, sono il numero uno. Lei è assolutamente numero uno. Lei è stato eletto nel 2008 sotto le insegne di... MPA. MPA, il signor Lombardo per l'autonomia, Alleati per il Sud. Del signor in Puglia abbiamo preso 40.000 voti, eccetera, eccetera. Tanti amici ci hanno sostenuto. Benissimo. Ma MPA che si era presentato nel 2008 insieme al signor Berlusconi, insieme al signor Berlusconi. Con una lista autonoma, però. Sì, con una lista autonoma. Era Lega, MPA e PD. E Popolo e Libertà. Poi che è successo? Quando lei a un certo punto è entrato nei responsabili. Scusi. Più lunga. Poi il presidente Lombardo ha scelto di non appoggiare il governo Berlusconi. Di rompere con Berlusconi. Tre amici abbiamo fatto prima. Tu sai che per avere un'identità devi collegarti ad un simbolo di un partito che è presentato alle elezioni. Sì. Allora siamo stati quindi Lega Sud Osonia, siamo stati poi il gruppo Noi Sud, abbiamo fondato Noi Sud, Lega Sud Osonia, poi Noi Sud, un partito con il PID, partito per l'Italia Domani di Romano, l'ex ministro Romano, e poi siamo andati a fare il responsabile. Diciamo, abbiamo avuto questi vari cose. Poi nei responsabili lei è stato addirittura il segretario dei responsabili, no? È stato il capogruppo. Mi scusi. E poi quando Ha rotto pure con Berlusconi. No, un attimo, io non ho rotto, io sono colui che ha salvato Berlusconi il 14 dicembre. Spagna politica, a cui lo stavano condannando i suoi cattivi consiglieri, cioè chiaro. Io sono andato al presidente e ho detto: "Presidente, questo tuo governo è troppo non è che l'ha salvato, l'ha affossato, non è che l'ha salvato". No, l'ho salvato, ma la vita è cioè quello che sembra, tu la sai la storia, no? Dell'uccellino che viene coperto dalla mucca, la mucca gli fa la cacca e l'uccellino si lamenta, invece la mucca lo salva dal rapace, poi arriva un altro che gli pulisce la cacca all'uccellino, l'uccellino dice: "Ah, come sei buono", invece quello se lo sta per mangiare. Quindi, questa qua è molto interessante, però, signor Sardelli, abbiamo assistito ad una metafora eccezionale. Sembra una contraddizione, ma io ho salvato Berlusconi dall'infamia politica a cui lo stavano condannando i suoi cattivi consiglieri, che gli chiedevano di tenere in piedi un governo che non era in grado di fronteggiare una situazione d'emergenza. Cioè lei dice, pur avendo votato contro, avendo detto che avrebbe votato, avendo detto che avrebbe votato contro Berlusconi. Io non ho votato a favore del governo Berlusconi. Vabbè, quello che è, lei dice però l'ho salvato. Beh, insomma, non è male però questa cosa. No, ma l'abbiamo salvato lui e il paese. Cioè, il paese, quello non manca mai. Non puoi soffrire affrontare la crisi economica più grave del dopoguerra con un governo che ha uno o due parlamentari. parlamentare in e adesso questo governo le piace e con Tremonti che non parla con il presidente questo non c'è dubbio è una situazione insostenibile su questo non c'è dubbio a tutti tranne a quelli che volevano mantenere Berlusconi lì e farlo martire pur di continuare a fare i loro comodi. Senta Sardelli, ma nella metafora di prima, nell'eccezionale metafora di prima che lei ci ha offerto, quella della mucca, della cacca, cioè mi dica un po' i personaggi. La mucca copre, fa la cacca sull'uccellino e l'uccellino si lamenta, dice ma perché mi tratti così? E lui dice no, stai lì, stai tranquillo che io lo faccio per te. E l'uccellino non dice no, tu mi hai trattato malissimo, hai fatto una cosa bruttissima. Poi arriva un altro uccello che comincia a liberarlo, a pulirlo dalla cacca, dice ah sì, tu mi vuoi bene, allora tu sei amico mio. E invece quello lo pulisce, lo libera per poi mangiare. Ma i personaggi chi sono? I personaggi politici? Vabbè, la politica è semplicissima, no? Tanti cattivi consiglieri opportunisti di Berlusconi, cioè, sarebbero? Lui restasse lì, si coprisce di ridicolo a governare una situazione impossibile, a governare con quella forza politica, cioè, chiaro, e fosse travolto anche dal giudizio della storia. Grazie a Dio gli abbiamo evitato questa cosa. Questa... Io mi aspetto che Berlusconi un giorno si renda conto e me ne dia atto. Cioè, vediamo, il tempo sarà galantuomo. D'altra parte, poi la mia correttezza è esemplare. Ieri io ho votato da garantista, ho votato a difesa di Cosentino. È il punto fondamentale. Sardelli è uno di quelli che ha votato, sono tanti, perché ha votato contro l'arresto di Cosentino. Sì, di Cosentino. Se avessero arrestato avrei presentato una proposta di legge per la quale sarebbe l'immunità al contrario, cioè l'immunità parlamentare al contrario, cioè da mettere in Costituzione che qualsiasi deputato, purché inquisito da qualsiasi procura, va subito arrestato, in quanto sicuramente colpevole. Ma lei ha ascoltato la Zanzara allora? Perché io questa è una cosa che ho proposto ieri, ho detto se volete andare fino in fondo, voi che volevate arrestare Cosentino, allora dovete proporre il fatto che quando una procura emette un mandato di cattura contro qualsiasi deputato va subito arrestato. Va arrestato subito, se poi c'è arriva una condanna non va condannato al carcere, va impiccato in piazza, cioè chiaro, è offerto all'udibrio pubblico, cioè in maniera che qualche giornalista poi scriva queste storie e guadagni, si arricchisca. Per esempio chi? Il magistrato che l'ha arrestato faccia carriera politica, diventi chissà che cosa, cioè chiaro. Perché in Sardelli, ma Saviano l'ha letto oggi, Saviano su Repubblica, l'ha letto? Cioè guardi, in questo io mi risparmio di leggere Saviano, cioè, perché io penso che nella vita serva per fare il bene, bisogna avere la pietas, la vecchia pietas, l'umanità, cioè chiaro, per professare il bene. E dunque? E invece vedo tanta cattiveria, tanta aggressività, tanta rabbia, tanto odio in giro. E dunque non lo legge, Saviano. Saviano me lo risparmio, cioè io mi rendo conto, se faccio un po' dalla storia di questo paese, che c'è un giornalista e un giudice hanno mandato a casa un presidente della Repubblica che si chiamava Leone, e poi dopo dopo una decina d'anni si è detto che non c'entrava niente, che il povero Torto è stato condannato a 16 giudici e poi si è scoperto che non c'entrava niente, cioè pure morto di tumore, perché sai, il corpo poi è una metafora della mente. Dunque Cosentino come Tortora, insomma. No, poteva finire come Torto. Io penso, ma non è solo cioè la carcerazione preventiva non riguarda solo Cosentino, riguarda tutti. La carcerazione preventiva è un abuso, è una violenza che si fa a una persona, alla sua famiglia, perché tu lo marchi per sempre, cioè chiaro, perché lascia stare che poi dopo viene assolto, tanto non sa nessuno. Intanto quello viene marchiato per sempre. Dunque quelli che volevano in carcere chi sono? Paese, di figli che hanno tentato il suicidio perché i genitori erano stati arrestati, cioè chiaro, storie così. Dunque c'era il rischio di non fa piacere, non dà soddisfazione alla voglia di alla cattiveria che c'è in giro. E chi erano i più cattivi alla Camera l'altro giorno? I più cattivi quali erano? Vabbè, ci sono quelli che lo fanno di professione, che su questo. Alla fine guarda, a voler pensare male, si potrebbe pensare che fra i franchi tiratori c'è più pure qualcuno che alla fine franchi tiratori quelli che hanno votato a favore di Cosentino per la non carcerazione, c'è pure qualcuno che ha bisogno dei mostri, cioè chiaro, e dei nemici per avere pure continuare a fare l'unica politica da fare, che è quella della Lei dice qualcuno potrebbe avere votato contro l'arresto per aumentare la figura del mostro di Cosentino, lei dice. Ma non è questione di mostri. Guarda, c'è tanti che fanno solo questa politica, possono pure aver avuto interesse, cioè a tenere in libertà i mostri per poter Parenzo, combatti un po', non combatti più, come ma mai? Non combatto perché sono in un dramma, dai, siamo stufi di questo sistema. Aspetti un attimo, Sardelli, sentiamo Parenzo che dice. No, sono al centro di un dramma perché non riuscirò a muovere per tutta la notte, dormirò alle 7 perché non ci sono taxi. E vabbè, ma adesso l'hai scoperto? No, è tutto fermo, sono bloccato qui a piedi, quindi... Ma lui deve che chiamare un NCC se non ci sono. È tutto finito. Chiama un NCC, come dice Sardelli. Sono mica, noleggio sono con mica... conducente. Noleggio con conducente, paghi 200... Sono mica Denis Verdini, comunque... Ma che c'è? Verdini c'ha una macchina da 500.000 euro, non so da quant'è. Appunto, sono mica Verdini. Comunque, questa storia per cui sarebbe il mostro, qui non è il problema di mostro, qui è il problema di credibilità delle istituzioni, Sardelli, perché se anche fosse vero che c'è in atto un complotto giudiziario per far fuori il grande deputato Cosentino, se anche fosse vero questo, ammesso e non concesso, questo voto mette una macchia indelebile ma nella macchia? Storia di questo Parlamento. Perché? Allora, dunque, secondo te Sardelli è uno che ha contribuito... Ma i padri costituenti, ma quale macchia? Quale macchia? Bravo, bravo, vada, picchi. Le macchie sono di sangue, su quelli che si sono suicidati in carcere senza aver avuto mai un giudizio, su quelli che si sono ammazzati. Perché nel 94 hanno fatto un colpo di Stato, cioè chiaro, con l'appoggio di una parte di qualche governo estero in questo Sardelli, paese. Beh, adesso 94 colpo di Stato con un governo estero addirittura. Sì, vabbè, questo non si vuole parlare, vabbè. Come non si può parlare, Sardelli? Adesso lei sta dicendo nel 94 i magistrati. Vabbè, ma lasciamo stare. Cioè, la verità è che le macchie ce l'hanno quelli che hanno fatto suicidare le persone in carcere, cioè chiaro. Non chi dice che uno deve andare in carcere quando ha una condanna. Cioè, ma dove quella carcerazione preventiva non può essere usata come una forma di infamia, cioè o di cattiveria o di condanna per uno che non ha subito un processo. È proprio l'idea della carcerazione. Senta, Di Pietro, mi dica qualcosa. No, ma l'ho capito, l'avevano previsto questa cosa qua, lo so. Avevano previsto l'immunità parlamentare proprio per impedire, perché non so se ha detto Montesquieu o qualcuno, se no bruciamo pure Montesquieu, bruciamo la separazione dei poteri, cioè chiaro, bruciamo pure questo. Un attimo, Sardelli, un attimo solo. I giudici facciano, i politici facciano tutto. Ma lei lo sa che ci sono, e a me è capitato un giorno, lo so che vi sto dicendo una cosa che non ci crederà nessuno. No, mi dica. Stavo con un collega, al sud succede così, in campagna elettorale, e c'è una persona si è avvicinata per chiedendogli fare una fotografia, quello ha detto no, io mi dispiace ma non sono disponibile. Ho detto scusa, ma perché ti sei rifiutato? Dice, ma perché? Chi la sa chi è quella? Un giorno scoprono che chi sa chi è, con un uomo con un figlio, che questo è un mezzo criminale, un delinquente, c'è chiaro. E io finisco, e questo dice che in qualche maniera era collegato a me, dice io vengo, finisco in una storia, in un processo per concorso esterno. Questo è un cretino. Poi, cioè, è un collega, per dire la situazione che si vive, c'è chiaro. Vabbè, senta, abbiamo la borsa, torniamo subito. Luciano Sardelli, deputato del gruppo misto Liberali per l'Italia, avete sentito con quanta foga difende il suo voto di ieri contro l'arresto di Cosentino. E un tempo fa, anzi un tot di anni fa, fu l'autore della canzone, mitica canzone di Albano, di una delle mitiche e famosissime canzoni di Albano. Siamo qui 800 24 00 24. Andiamo a sentire qualche ascoltatore mentre siamo collegati con Roma, dove Davide Parenzo ha difficoltà a trovare un taxi per quello che sta avvenendo oggi nella capitale, dove incredibilmente, secondo me, e senza poi senza che questa cosa, secondo me, poi avrà ripercussioni nella futura trattativa, i tassisti hanno bloccato, i nostri amici tassisti hanno bloccato la capitale. Mi sono attrezzato, ho chiamato i miei amici indignati, mi stanno portando una tenda qui e starò qui alla 7. Il signor Diego Volpe Pasini dice che lo vado a prendere io, sono libero stasera, ho un'auto da 70.000 euro se va bene, dice Volpe Pasini, se vuoi ti viene a prendere lui. Ho risolto grazie al mio amico Pino. Che cosa devo dire al signor Volpe Pasini? Dici che tenga l'auto per altri momenti, e poi non salgo io su macchine troppo costose. Ma no. Io non salgo su macchine, a parte non so, io sono una persona da boschi e da riviera, quindi non salgo su macchine. Verdini, quanto ha speso per la macchina, Verdini? Denis Verdini, quanto ha pagato la sua macchina? E che ne so, la spesa, ma, ognuno spende quanto vuole per la macchina, non so, mezzo milione di euro, non lo so. Posso decidere di non salire su una macchina troppo costosa? Mamma mia. Perché non mi interessa, non per snobismo, non mi interessa. Mamma mia. Vabbè, andiamo a sentire Alessio, sempre in collegamento da Roma, credo, non so da dove, Luciano Sardelli, deputato del gruppo Luciano, Misto. Fai una cosa utile, invece di parlare di Cosentino dicendo cose che non stanno mencionando di te. Ma come no? Dai, ha ragione. Fai il deputato vicino al cittadino, fai vedere che sei al servizio del popolo e magari vieni a prendere, non lo so. Ma che c'entra? A parte che Sardelli non so dove si trova. Dove si trova Sardelli? Io mi trovo a Brindisi, c'ho una piccola Palio, una macchina che possiedo io, una Palio Weekend. Una Palio, se una Palio Weekend. Parto, arrivo stanotte e lo vado a prendere. No, per carità, per carità. Ma mi sorprende che uno simpatico come lui, di bella presenza, non c'ha una ragazza, un amico, un'amica, niente. Bella presenza, Sardelli, bella presenza. Bravo, mi piace sto Sardelli, bravo. Sardelli. Bella presenza. Senza, questo mi sorprende che non ci abbia, sai, qualcuno che se lo prenda no, a cuore. Però hai io detto sono delle disponibile, cioè, se vuole io parto, cioè, se 5 ore, con la pari ci metto 6-7 ore. Se tra 7 ore mi dice dove è stato. Scusi, però io adesso una domanda faccio a onorevole Sardelli, ma come si fa ad avere la Palio? Adesso mi massacreranno. Cioè, come si fa a possedere la Palio Weekend? Vabbè, è una roba agghiacciante. Ma io sono un po' sfigato come deputato, no? Cioè, chiaro, mica uno fu caltro e furbo, amico mio, cioè, non mi ha inquadrato. Oh, sì, no? Però la Palio Weekend è una cosa agghiacciante. La Palio Weekend da papà qualche anno fa, è l'unica macchina. Di che anno, scusi, di che anno è sta Palio Weekend? Detto con tutto rispetto dalla Fiat, per carità, però insomma, la Palio Weekend è quella. Ma poi è una macchina ottima che non si guarda, non si rovina, quindi uno come fa a buttare? Ma di che anno è, scusi, sta Palio Weekend? 8-10 anni, non lo so. Palio Weekend, una roba incredibile. Ma comunque è una macchina stupenda, cioè di grande resistenza, ha avuto un grande successo in Brasile, perché come ci puoi mettere dietro, ecco mio padre ci mette dietro gli arnesi di campagna, va bene insomma, consigliamo. Ma lei perché in campagna lei dà una mano a suo padre o no? Insomma. No, non gli do una mano, non riesco ad avere il tempo di dare una mano a mio padre, però mio padre lo usa pure per queste cose, ma cosa che c'è dietro? Sì, c'è dietro sempre qualche attrezzo va eccetera. Va bene, sì, Alessio da Mole, sentiamo il signor. Sì, un attimo solo, Sardelli, resti di tanto che c'ha da fare a Brindisi adesso a quest'ora. Sì, niente, Alessio da Modena, buonasera. Buonasera, io vorrei far godere un attimo Parenzo. Faccia godere Parenzo, sì. Allora, tutte le persone che ieri, dopo il voto di ieri, sono felici, dovrebbero vergognarsi, perché sapere che una persona in Parlamento è sospettata di essere collusa mi mette i brividi. Io vorrei sapere una cosa, una domanda al signor Cruciani. Sì, prego. Quantomeno si dovrebbe dimettere. Chi? Perché? Chi si dovrebbe dimettere, Cosentino. Scusi? Ah, cosa pensavo io. Ti spiego anche il motivo. Le spiego, sì. Tra 2 anni finisce il processo. Sì. Si appura che è un camorrista. Sì. Noi per altri 2 anni abbiamo tenuto un camorrista in Parlamento. Mm. Se vi piace così. Bravo. Sì, ma Alessio, abbia pazienza. No, lei fa un ragionamento perverso. No, prendi in tasca, basta, non c'è molto da dire. Ma che prendi in tasca? Ma falla finita, su, prendi, falla chiudi. Finita. Falla adesso finita. E sta passando anche un'ambulanza, giusto appunto? Sta passando giusto appunto un'ambulanza. No, che prendi un'ambulanza, non fare come Gustavo Selva che fu costretto poi a dimettersi. No, è arrivata la persona che devo ringraziare Pino. Beh, sì, meno male che è arrivata la persona che deve prendere l'ambulanza. L'NCC. Allora ti fai prendere dall'NCC alla fine. Ha visto Sardelli, sì, alla fine. Questi giornalisti sono sempre privilegiati, non c'è niente da fare. No, basta pagare, chiami e paghi, cosa devi fare? Ma qual è il futuro, Alessio? Qual è il futuro politico di Sardelli? Siamo tutti un po' trepidati. Il futuro politico di Luciano, protagonista di mille battaglie. No, scrittore, la letteratura, mi aspetta letteratura. Cioè, lei ha scritto un libro o una storia poco onorevole e lo sappiamo. Che lei non ha detto, se no capirebbe le posizioni sulla magistratura. No, no, ma io la so benissimo le sue posizioni sulla magistratura e le condivido pure, sfiguro un po', non è questo il punto. Per cui, questo è grave. Non è questo il punto. Una storia poco onorevole. Dopo questo che cosa c'è nel futuro di Sardelli come scrittore, per esempio, non come politico? Come la politica chissà, insomma. Come scrittore sto scrivendo una storia sul... una saga familiare che va dagli, diciamo, dal dopoguerra, dal 45 ad oggi, che spiega i problemi del mezzogiorno. Addirittura una saga familiare, che vuole fare? Tipo una guerra e pace, che vuole fare? No, vabbè, 300 pagine, non di più, perché la gente... Beh, 300 pagine, non è uno scherzetto, 300 pagine, un mattone di 300 pagine. No, ma tu, se avessi letto l'altro racconto mio, che è bellissimo, leggerissimo, divertente, non diresti così, perché non si scrivono mattoni. Beh, 300 pagine sono sempre comunque una sorta di i Buddenbrock di Sardelli. Ci può essere un mattone anche di 10 pagine. No, cioè, ma certo, non c'è dubbio. Assolutamente. Invece volevo rispondere, se possibile, a quel signore. All'ascoltatore, sì, il signor Alessio. Prima sì. di rispondere a quel signore, Sardelli, Alessio. Perdonami. Dimmi. Capire la gravità di quel voto. Oddio. E tu, che sei una persona per bene, che siedi... Io adesso, su ogni legge che proporrà l'ottimo deputato Cosentino, avrò un legittimo... Non dire mamma mia, smettila di dire mamma mia. Non è il musical, smettila, è una roba seria. Mamma dimmi. Mia, Luca da Como, basta, borsa. Vabbè, allora calma. Dai. Allora, Sardelli, io ogni volta che ora vedrò un provvedimento di legge presentato da Cosentino, sarò autorizzato ad avere un legittimo sospetto che questo non venga fatto con la dovuta libertà di un parlamentare. Perché? Perché ha delle accuse che ma non che è quello di aver tutto trasparente, le proposte di legge sono trasparenti, ma cosa dici? Fatte magari nell'interesse di chi? Può ma nell'interesse di chi? Ma di che stai parlando? Stai dicendo delle... Di che cosa è accusato? Di essere il riferimento e allora? Di Palenzi. E allora? Allora, posso permettermi che nel caso lui si occupi di rifiuti, ad esempio, firmi qualche provvedimento sui rifiuti, viste le accuse gravissime che ha, non vengano fatte nell'interesse dei cittadini ma nell'interesse di altri? Sono così pazzo se sostengo questo? Ma questo vale per chiunque. Questo non è che vale solo per Cosentino, vale per qualsiasi deputato. Vale per chiunque. Cioè, ma perché non capite? Io vi voglio veramente bene a tutte e due, in particolare a Cruciani, per ragioni che non posso dire alla radio. No, adesso non esagerare. Se no sembra che sa che cosa. No, c'è anche ragione proprio di affetto personale, di amore, eccetera. Che amore. Voglio dire, Parenzo, ma a questo punto, aboliamo il Ministero della Giustizia, aboliamo i tribunali, cioè, diciamo che un'accusa è la realtà, scagliamo un sospetto per condanniamo le persone. Ma perché butti la palla in tribuna? Ma perché butti la palla in tribuna e te la porti via? Ma perché butti la palla in tribuna? Ma perché butti la palla in tribuna? Non basta un sospetto a condannare una persona, non può esistere questo concetto, questo è il contrario. Ma io non ho condannato nessuno. È un mostro dal punto di vista giuridico quello che tu dici, dal punto di vista umano. Ma io non riesco a capire, come una persona... Cioè, però Sardelli, io adesso lo dico per carità, non voglio infierire su un tic di una persona, però lei quando parla, lei mi sta molto simpatico, lei lo sa benissimo, lei ha notato che utilizza l'espressione cioè chiaro, no? Sì. Come mai questa cosa qui? È una cosa che da sempre è così? No, è vero, perché tu sai perché uno utilizza le parole? Perché il problema è se è comprensibile dagli altri. No, lei ogni tanto quando finisce una frase dice cioè è chiaro. È chiaro. Sempre il problema e il dubbio se sia chiaro o meno. Ma lo dice quasi come tic, ormai è un tic questo qua il suo. No, vabbè, è un dubbio di fondo, è vero, è un dubbio mio. No, è per carità. Sono comprensibile. No, ma io non volevo dire niente, è un tic che lei ha, che volevo capire se aveva un'origine così. No, c'è solo questo. Ma è da sempre così? È da sempre? Sì, ho sempre la preoccupazione di essere compreso. No, ma questa espressione che lui usa, cioè è chiaro, quando parla anche pubblicamente, eccetera. Poi io faccio il medico, quando parlo con le persone, soprattutto con le mamme, gli spiego, io faccio il pediatra, gli spiego quello che devono fare, mi pongo sempre il problema se l'hanno capito. E fa anche così, cioè è chiaro. Lo faccio per molti anni, decine di volte al giorno, ho preso questa abitudine. Devi sapere, Parenzo, che una volta Sardelli definiva Berlusconi il nostro satrapo. Guarda, voi usate le parole, siete fortissime, perché prendete una parola, la estrapolate. No, ma lei questo disse, il nostro satrapo. Ma il satrapo, cos'è il satrapo? Scusami. Che ne so, il satrapo è una specie di dittatore là, no, e chi è? È un uomo che esercita un potere esatto. sugli altri. Esatto. Diciamo, è un potere di... anche di condizionamento certo. Ma è un detto, ma è il senso positivo, ma questo voglio dire è una forza. cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Canzone scritta da Luciano Sardelli. Oggi nei Liberali per l'Italia, dopo una lunghissima mediazione. Domani nella nuova grande coalizione di centrodestra. Ah, lei sta lavorando per la nuova grande. Lei sta lavorando per la nuova grande coalizione di centrodestra. Io toglierei la parola grande. E chi c'è? Chi è che lei prevede come leader di questa coalizione di centrodestra? Chi ci potrebbe essere come leader di questa grande coalizione di centrodestra? Ma questo lo deve decidere la gente. Ma non mi faccia il diplomatico, così nella sua visione, nella sua chi vede come leader, come nuovo satrapo. Il leader ci farà la coalizione, no? Ah beh, questo pure è vero. Però lei chi vede emergere in questo momento come satrapo, come novello satrapo? Che ne so, Formigoni, il signor Formigoni, il signor Alfano. No, Formigoni no. Sono persone che hanno carità e valore, indubbiamente. Il ruolo e la funzione che... Ma deve ancora arrivare, mi dica la verità, deve ancora arrivare il nuovo satrapo. Quando ci sarà, si farà la cosa. Però deve ancora emergere. È chiaro, quando emerge, tu poi ha la capacità di coagulare, no? Cioè, chiaro, non è che di coagulare, prima... cioè, chiaro, sì, certo. di fare squadra, no? Non è che prima si fa la squadra e poi si trova. Sardelli, altre canzoni in previsione, no? Altre canzoni? No. Facciamo una canzone dobbiamo fare una canzone giustizialista. E che ne so, come la farebbe una canzone giustizialista? Come la farei? Cioè, condanniamoli tutti, cioè, come diceva il signore, condanniamoli prima, condanniamoli per sospetto, cioè, chiaro. Come la musicherebbe questa canzone? Condanniamoli tutti, condanniamoli prima, condanniamoli per un sospetto. Come la musica, come la metterebbe in musica, lei che è un esperto? Tu ci sei. Cioè, con un po' di... Ma tu l'hai fatta allegra, bisognerebbe farlo un po' più cupa. Un po' più cupa. Guardi, concludiamo con questo, ci pensi due secondi, do la pubblicità e il traffico, poi concludiamo con lei pensi al modo in cui musicare, condanniamoli tutti, condanniamoli prima, condanniamoli senza processo. Questo è più o meno il tenore, le parole, no? Lei adesso, in questi due secondi, lei che è una mente così rapida, veloce, eccetera, e che ha musicato anche Albano, cerchiamo di immaginare una musica per la nuova canzone di Luciano Sardelli sul giustizialismo. No, questa è troppo allegra, no Sardelli? Ma che è troppo allegra, dai. Che ci vuole per la canzone sul giustizialismo? Che ci vorrebbe? Bisogna andare in più greve, un tono più pesante. Condannati senza siamo sulla buona strada, saranno condannati tutti i deputati senza processo e senza libertà, saranno condannati tutti i deputati senza un processo e senza libertà e resta, no, non va bene senza libertà. Parenzo, ci siamo quasi, Parenzo. Aspetta, la musichetta, aiutaci tu. Saranno condannati tutti i deputati senza un processo e poi giustizia sarà fatta. Facciamola così. Parenzo, cantala anche tu. Siamo messi malissimo, amico mio, siamo messi male, c'è bisogno di pietas umana, di buon senso. C'è bisogno di bontà, di equilibrio, di ragione. Di bontà, di bontà. Saranno condannati, saranno... Com'era che abbiamo detto? Come abbiamo detto? Vabbè, poi la facciamo la... Vabbè, è caduto tutto. Sardelli è caduto, chi è? Vabbè, lo recuperiamo un'altra volta, sì, va. Ma era più semplice cantare un'altra canzone che sta benissimo per questi tempi. Qual è? In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Questo mondo di ladri. Roberto da Roma, buonasera, una cosa penosa. Sì, Roberto D'Agostino? No, Roberto da Roma è un ascoltatore che si chiama Roberto e che magari non vuole essere, come dire, denigrato da te, non perché lo accosti D'Agostino, perché è una persona rispettabilissima. Vabbè, allora? Sono Roberto da Roma. Prego, signor Roberto, dica. Allora, voglio dare ragione al signor Cruciani, finalmente. Oh, meno male. Altre volte non la davo, perché ieri ha detto che Parenzo è un pazzo. No, Parenzo no, scusi. M4. Ma io non ho detto che è un pazzo. No, no, è un pazzo. No, no, nel senso di dire che dovevano arrestare, dovevano fare. Intanto deve sapere Parenzo che la Camera non ha concesso l'arresto dell'onorevole Casentino in base a una legge. Ora, una legge deve essere osservata. Chi non osserva una legge si chiama fuorilegge. Una legge si cambia soltanto con un'altra legge. Quando facciamo un'altra legge che abolisce la legge che obbliga, diciamo, la magistratura a sentire il Parlamento per arrestare un parlamentare, allora può essere arrestato un qualsiasi parlamentare. Attualmente non può essere arrestato se non c'è il Parlamento che concede l'arresto. Grazie Roberto. Anzi, voglio dire una cosa, sì, e finisco qui. Si dice un motto siciliano: non fu visto, né guardato, e fottuto carcerato. Com'è, scusi, sto motto? Sto motto è siciliano, lo diceva un mio avo. Com'è? Una persona altrimenti rischia che non è visto, né guardato, quindi è la stessa cosa, ed è tradotto carcerato. La giustizia ha fatto così, da magistrati, politicizzati. Va bene, grazie. Andrea da Livorno, buonasera, veloce. Sì, buonasera. Senta, io ieri ho sentito la trasmissione solo in parte e ho avuto modo di sentire che lei era favorevole alla scelta del Parlamento di negare l'autorizzazione all'arresto. Più o meno, sì. Più o meno. Sì, non ho capito quali sono le sue motivazioni, però se non ho capito male, lei assimilava alla superficialità e strumentalità della decisione del Parlamento, che siccome rilevata da Parenzo, giustamente. Attestato sulle specialità da parte dei magistrati. No, io non ho detto questo, guardi, lei ha capito malissimo. Non ho assolutamente detto questo, ho detto che la richiesta dei magistrati di arrestare Cosentino oggi, ora, è una richiesta che è politica, e dunque a una richiesta politica si risponde con un atto politico, e comunque in ogni caso secondo me non c'è politica, scusi. Perché secondo me è una richiesta politica, perché chiedono di arrestare Cosentino non richiedono di arrestare Cosentino in quanto sia strettamente necessario per uno dei tre motivi che abbiamo esposto arrestare Cosentino, bensì per il fatto che Cosentino è un politico e dunque il suo arresto fa molto rumore. Non c'è nessun motivo al mondo per cui, mentre il processo continua, il signor Cosentino debba andare in galera. Questo è il punto fondamentale. Ma scusi, lei ha letto l'ordinanza? Ho letto un po' di carte, un po' di cose, ma in ogni caso io sono convinto del fatto che dopo accuse così lunghe dove è un processo così lungo eccetera, non può scappare, non può inquinare le prove, di tutta evidenza non può inquinare. Sei le sicuro che non certo può, certo che non può inquinare, che prove può inquinare, è super controllato, ma di che stiamo parlando? Non può inquinare le prove. Né l'altra cosa qual è, che me la sono scordata? Scusa, la vita l'hai smattato? Ma se la decisione è stata presa da quattro pubblici ministeri. Sì, ma il punto non è quello. Ma non c'è ma se non ragioniamo, se ragioniamo solamente sul fatto che è stata presa una decisione, allora non discutiamo più. Siccome quattro giudici hanno deciso che deve essere arrestato adesso, allora non discutiamo più. Cioè, allora va sempre bene. Cioè, questo è il punto. Cioè, qualcuno può avere le sue idee su questo oppure no? Ma Vito l'hai scappato. Ma perché tu pensi che Cosentino possa scappare? Perché io non lo so di Cosentino. Allora, so che la Vitola, che non è deputato. Sei fuori di testa completamente. Cioè. Scusami, la Vitola, io voglio la Vitola deputato a questo punto. Devi avere gli stessi diritti di Cosentino, la Vitola. Perché la Vitola è scappato, ha dovuto fare latitante, non ha avuto un voto parlamentare. Intanto ci sentiamo lunedì a questo punto. Caro Parenzo, ti abbraccio. A presto. Fammi dire una cosa. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.